Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di studi. Vi do il benvenuto dell'Associazione Italiana Biblioteche, vi porto il benvenuto della Presidente Rosa Maiello, che ha avuto un ritardo nel treno da Napoli, ma ci raggiungerà, durante la mattina. E sono molto contento di uno dei primi incontri di persona. C'è stato qualcos'altro, ma insomma è sempre bello ricominciare a vederci dopo un periodo difficile da tanti punti di vista. Questa giornata è una giornata significativa naturalmente per la Biblioteca Nazionale, significativa per l'associazione professionale, significativa per la professione dei bibliotecari, quindi davvero sono molto contento. Non sarò breve perché i tempi sono stretti e quindi vi porto innanzitutto i saluti del direttore della Biblioteca Nazionale Centrale, Stefano Campagnolo, che non è potuto essere qui per un impegno improvviso. Lo ringrazio, come dire, virtualmente perché come dire, il rapporto che l'AIB ha con la Biblioteca Nazionale da molto tempo, sancito anche formalmente da un accordo di valorizzazione, ha portato sia sì, appunto che ci ospita sempre i nostri incontri, le nostre attività e questa bella sala rinnovata, insomma, come dire, per noi è un onore essere qui e collaborare, diciamo, direttamente con la Nazionale in questi eventi. Passo rapidamente a portare alcuni saluti di persone che volevano essere qui e che per ragioni di impegni istituzionali non derogabili non sono potuti essere. Prima di tutto la dottoressa Paola Passarelli, che è il direttore generale Biblioteca e Diritto d'Autore, che ci ha mandato un messaggio che volentieri leggo. Sono molto dispiaciuta di non poter intervenire personalmente a questa giornata dedicata al ricordo della vita e dell'opera di Angela Vinai. Vorrei però far giungere la mia partecipazione attraverso questo saluto. Credo che la ragione profonda di questo evento sia quella di recuperare una particolare attenzione sul ruolo fondamentale che la dottoressa Vinai ha avuto nel promuovere e sviluppare il sistema delle biblioteche italiane e anche il modo e lo stile in cui ha inteso essere funzionario pubblico. Lungo la sua carriera lavorativa, il fil rouge che ha legato tutti gli incarichi ricoperti, a ricordarne sono alcuni, organizzatrice a Roma nel Palazzo della Città del Lavoro all'EUR di un centro di pronto soccorso per il restauro dei libri della Biblioteca Nazionale di Firenze dopo l'alluvione del 66, responsabile del complesso trasferimento della Biblioteca Nazionale di Roma dalla sede del Collegio Romano al nuovo edificio di Castro Pretorio, l'attiva partecipazione ai lavori per l'istituzione del nostro ministero, direttore della Biblioteca Universitaria Alessandrina, direttore dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico, presidente dell'AIB, responsabile della progettazione e costruzione del Servizio Bibliotecario Nazionale, SBN. Quindi, è una parentesi lunghissima, il fil rouge dell'attività di Angela Vinai è costituito non solo dalla solita preparazione scientifica, ma anche dall'enorme professionalità che sapeva unire allo spirito di servizio, scusate, mi ero incartato sulla parentesi, la preparazione scientifica, ma anche dall'enorme professionalità che sapeva unire allo spirito di servizio. Chiedo scusa. A riguardo, pur non mancando mai momenti di confronto con l'amministrazione, la stima e la considerazione di cui godeva all'interno delle istituzioni non sono mai venute meno, per il riconoscimento pubblico di aver messo la sua cultura e la sua professionalità al servizio dello Stato, inteso come istituzione e comunità di cittadini. Questo riconoscimento pubblico, peraltro in anni non facili, caratterizzati da aspre tensioni sociali e politiche, fu logica conseguenza della sua capacità di operare, caratterizzata dalla modernità delle scelte effettuate nell'ottica di un miglioramento dei servizi e dalla spiccata capacità di coinvolgere e responsabilizzare tutti i lavoratori interessati. Ritengo che tale modus operandi, ispirato ai principi della collaborazione e delle responsabilità individuali, possa essere ancora oggi non solo motivo di studio ed analisi, ma soprattutto ragione di applicazione pratica affinché il ricordo di Angela Vinai possa vivere ogni giorno in quei luoghi che l'hanno visto operare con grandi energie. Quindi, Questo è il messaggio della dottoressa Passarelli. Porto i saluti del dottor Mario Turetta, direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, che anche lui per ragioni istituzionali non è potuto essere presente, dell'architetto Laura Moro, direttore generale della Digital Library. Sono particolarmente lieto e lo ringrazio di avere qui il dottor Gabriele Capone, direttore del servizio secondo della Direzione Educazione e Ricerca, che ha voluto essere presente al nostro incontro, a cui lascio la parola ci vuole aggiornare su una cosa importante, che una novità importante. Gli lascio volentieri la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Qualcuno diceva io sono di Berlino, no, io sono un bibliotecario, quindi non sono qui a portare soltanto un semplice saluto, ma una partecipazione di chi, anche svolgendo altri ruoli, altri compiti, ha ben fisso questo timone, questo senso di appartenenza. Io mi sono formato in una piccolissima biblioteca alla periferia dell'impero, talmente piccola e talmente lontana che suscitò anche le perplessità e qualche quesito da chi allora presiedeva la commissione di concorso, con cui io poi mi onoro di essere dirigente bibliotecario di questo, del nostro ministero. Il ricordo di una così importante collega deve essere anche un motivo di riflessione, di non portare dei vuoti saluti istituzionali che tra l'altro non sarei capace di fare, ma a condividere con voi alcune considerazioni che mi consente di fare svolgere l'attività nel servizio secondo istituti culturali della Direzione Generale Educazione e Ricerca, perché lì si osservano particolari dinamiche che probabilmente un consesso così importante come il vostro non solo deve conoscere, ma in alcuni casi può anche correggere. Io non parlo di quelli che sono gli enormi squilibri territoriali che riguardano la distribuzione dei contributi, che riguardano l'articolo 8, l'articolo 1, la tabella triennale, la tabella annuale e l'altra misura che credo che faccia parte anche di questo pezzo di stamattina, convegni e pubblicazioni. Uno squilibrio che andrebbe fortemente sanato, perché oltre il 93% di questi fondi abbastanza importanti sono allocati nel centro-nord, per cui noi alimentiamo una fortissima suddivisione e una fortissima allontanamento sotto il profilo culturale e dell'importanza che gli istituti culturali hanno nel nostro paese. Ma qui con voi invece brevemente voglio condividere un dato, che è un dato che probabilmente avrebbe colpito anche la dottoressa Vinai. Per quanto riguarda queste due importanti forme di contribuzioni del Ministero, l'articolo 1 tabella triennale, articolo 8 tabella annuale, parliamo per l'articolo 1 25 milioni di euro, soltanto 542 mila euro vanno per interventi finalizzati alle biblioteche, cioè soltanto il 2,3. Il paradosso qual è? Il paradosso che né nella valutazione di queste istanze il patrimonio culturale, inteso come patrimonio bibliotecario, patrimonio archivistico o patrimonio culturale in genere, ha un valore, una valenza e un punteggio. Il paradosso è che la biblioteca porta ricchezza, porta valutazione, ma vede restituire solo in parte quello che è la ricchezza all'interno degli istituti. Quindi all'interno di, e questo vale anche per l'articolo 8 e vale anche per convegni e pubblicazioni, non vi leggo i dati perché potrebbe essere molto noioso, ma sono a vostra disposizione per condividerli. Ecco, giornate come questa, nel ricordo di una straordinaria e prestigiosa, ho quasi timore a dire collega, possono anche essere e devono essere, a mio modestissimo avviso, un momento anche di conoscenza e fare in modo che ognuno di noi possa portare un contributo per migliorare questi squilibri e migliorare, o meglio, abolire o ridurre questi paradossi. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio molto il dottor Capone. Colgo l'occasione solo per leggere un messaggio della professoressa Maria Gioia Tavoni che ci ha scritto proprio in occasione di questa giornata dedicata a Angela Vinai. Sarò brevissimo. Oltre a augurare che l'assemblea si svolga con il consueto profitto, tendo a inviare tramite live, già che sono stata anche bibliotecaria, i miei più cari saluti e apprezzamenti per chi ha indetto la giornata in ricordo di Angela Vinai, di cui sono stata immeritatamente amica. Non solo ho potuto godere e gioire della sua compagnia a Roma, anche nella sua casa, ma in molte altre occasioni, comprese presentazioni di alcuni importanti libri, le tornate AIB e soprattutto il progetto da cui è scaturita la nuova dimensione della ricerca, grazie al prototipo fiorentino dalla Vinai fortemente voluto e sostenuto. Gli ultimi anni di Angela Vinai li trascorsi a Bologna, come è noto. Quegli anni furono per me molto importanti perché potei dedicare alla nostra amicizia tutto il tempo a disposizione di entrambe. Ci telefonammo poco prima della sua scomparsa, ma purtroppo non andai a trovarla perché il viaggio per raggiungere la figlia di suo marito, con la quale Angela era sempre stata in comunione di pensiero, si annunciava molto faticoso per le condizioni nelle quali mi trovavo. Così anche ora, le mie condizioni non mi consentono di venire a Roma, ma potrò far celebrare una messa in suo onore e ricordo, rispettando la sua fede. Porgo il mio più sentito augurio affinché tutta la giornata si svolga nella massima condivisione di intenti e saluto con grande cordialità tutti i bibliotecari che saranno presenti a entrambi gli incontri. Maria Gioia Tavoni. Ringraziando ancora i presenti, auguro buon lavoro ai relatori e, niente, e a dopo. Ora va? Ok, scusatemi. Dicevo che appunto non abbiamo pensato ad una commemorazione, ma a una riflessione attorno ad alcuni nodi tematici che hanno caratterizzato la vita e l'attività di Angela Vinai. Non è facile parlare di Angela Vinai a chi non l'ha conosciuta direttamente e alcuni di voi probabilmente non hanno avuto modo di conoscere, di frequentarla, di lavorare con lei, perché di Vinai restano pochi scritti, ma qualcosa c'è e farò riferimento a questo. Più che altro resta, diciamo, il ricordo della passione che metteva nelle cose che faceva in chi ha avuto la fortuna di lavorare con lei. Angela Vinai era una sintesi di passione, di impegno civile e politico, anche se vogliamo usare questo termine, di impegno, visione culturale e di visione su quello che era e poteva essere il ruolo delle biblioteche nella società italiana, con una forte attenzione anche al rapporto, diciamo, tra centro e periferia, che era uno dei momenti di discussione più accesi negli anni caldi, diciamo, dell'attività di Vinai. Tutto questo lei lo viveva anche con un forte rapporto con la comunità professionale, con la generazione che l'aveva preceduta, con i suoi coetanei, ma anche con una fortissima attenzione ai giovani che coinvolgeva, reclutava per le attività, i progetti che cui dava vita. Con una forte attenzione a tutti gli aspetti della professione, da quelli più tecnici a quelli più in sintonia, diciamo, con questa passione, con questa visione. In questo senso il rapporto tra Vinai e l'Associazione Italiana Biblioteca è stato molto forte. E sono molto contento che l'AIB abbia appunto fatta sua questa iniziativa. Vinai è stata lungamente impegnata nell'associazione cui si iscrisse fin dal suo ingresso in carriera ed è stata presidente nazionale dell'AIB per 6 anni dal 75 all'86. La visione che AIB aveva, dal 75 all'81, la visione che Vinay aveva della professione delle biblioteche e quindi anche del ruolo che l'AIB poteva esercitare in questa in quella che era il suo tentativo di dare al paese una politica per le biblioteche, una politica che non c'era stata prima, che un po' forse ci fu in quegli anni e che oggi vediamo esserci molto, molto poco. Si esprime molto bene in alcuni interventi che Angela Vinay fece in occasione di alcuni congressi. Questo volume che l'AIPO pubblicò 10 anni dopo la morte di Vinay nel 2020 raccoglie le relazioni che Vinay tenne in apertura dei congressi che si sono tenuti durante la sua presidenza e in alcune altre iniziative. Il tema che troviamo sempre al centro è quello del sistema delle biblioteche italiane. Vinay, pur avendo trascorso tutta la sua carriera all'interno delle biblioteche statali, prima il Ministero dell'Istruzione, poi il Ministero dei Beni Culturali, era molto attenta a quello che accadeva anche nelle altre tipologie di biblioteche e l'avvio non solo di SBN ma anche di altri progetti che dobbiamo a lei, come il censimento delle 500, come si chiamava allora, ed altre iniziative del genere, sono sempre iniziative che hanno cercato di valorizzare e portare a fattor comune le grandi potenzialità di tutte le biblioteche italiane, quelle dello Stato, quelle delle università, quelle delle istituzioni culturali, quelle pubbliche e così via, in un rapporto, diciamo, non sempre facile tra un'impostazione che in alcuni casi era ancora fortemente centralista e invece una spinta al decentramento che in quegli anni si andava realizzando. È stato già ricordato, Vinay partecipò attivamente al dibattito che negli anni 70 portò prima alla nascita del Ministero, ma anche al decentramento che si realizzò nel 72 dopo la nascita delle regioni. E portò anche all'interno dell'AIB questo tipo di impostazione. Dobbiamo agli anni della sua presidenza una profonda trasformazione dell'associazione che si aprì molto al decentramento, con un nuovo statuto si aprì molto al decentramento, alle potenzialità delle sezioni regionali e così via. Io non voglio farvi perdere altro tempo e quindi non aggiungo molto a questo. Voglio dire che insomma Angela Vinay è stata sempre protagonista delle svolte, no? Ha combattuto in prima linea senza dissimulare anche momenti di forte tensione e dissenso che ci potevano essere tra i colleghi nell'associazione, all'interno del Ministero, all'interno anche dei suoi interlocutori politici. Ecco, questi diversi aspetti della personalità di Vinay sono quelli che fanno da filo conduttore del programma di questa mattinata. le attività, gli incarichi di Angela Vinali sono quelli che sono stati ricordati nel messaggio della direttrice generale Passarelli, il clima è quello che è stato ricordato nell'intervento del dottor Capone. Ecco, le varie componenti della personalità di Angela Vinai, che era una persona fortemente militante, no? Che militava non soltanto nelle organizzazioni politiche, fin dai tempi della lotta partigiana, era stata staffetta partigiana e poi la sua militanza politica è nota, ma che ha militato nell'associazione, ha militato nella comunità professionale, ha militato nel ministero. Ecco, è una militanza la sua che appunto si è espressa su vari fronti, come vedremo ora. Gli anni 70, che sono centrali, diciamo, per la sua attività, per i motivi che dicevo un attimo fa, sono anni di grande fermento in cui tante forti personalità si confrontavano. Sempre in questo volume c'è un bell'intervento di Beppe Colombo che ricorda molto, diciamo, anche la discussione che c'era all'interno dell'AIB in quegli anni. Si ricorda che la nascita del Ministero dei Beni Culturali fu preceduta da un lungo dibattito la Commissione Franceschini, Papaaldo e tutto quello che portò poi ad una alla nascita del Ministero. Un'ultima cosa che vorrei ricordare, anche qui appunto con riferimento all'impegno associativo di Vinai, ma direi al suo stile di lavoro, è che Angela Vinai non era mai sola nelle cose che faceva. Cercava sempre di circondarsi di persone con cui condividere queste battaglie, cercava sempre di stimolare l'impegno nelle persone che incontrava e che, come dicevo, reclutava per i suoi progetti. Io ho avuto la fortuna di essere uno di questi. Circondava molto anche di persone molto giovani, molto più giovani di lei, eppure essendo una persona molto rigorosa, che incuteva, diciamo, a volte anche un certo timore, sicuramente un grande rispetto, era poi capace di una grande umanità e di uno slancio, appunto di questa capacità di condivisione e a volte anche in momenti, diciamo, un po' più rilassati, in momenti conviviali, in momenti come quelli che spesso in occasione appunto di riunioni, incontri o incontri dell'associazione si verificano, riusciva a tenere forte questo senso della comunità attorno a lei. Ecco, ai più giovani noi non vogliamo trasmettere con questo incontro nostalgia o rimpianto, ma soltanto, diciamo, la passione che ha animato Angela Vinai per tutta la sua esistenza e per tutta la sua attività. Adesso inizierei con l'intervento di Giovanna Mazzola Merola, che è stata forse una delle persone più vicine ad Angela Vinai lungo tutto il suo percorso, che parla appunto dell'impegno civile di una speciale bibliotecaria, di una bibliotecaria speciale. Grazie Giovanni, e in effetti io parlo davvero da un, come dire, da un punto di vista del grande privilegio che ho avuto nella mia vita, una grande fortuna, come ancora ritengo che sia, cioè quello di lavorare con Angela Vinai per più di 20 anni. E quindi non so, vi prego di capire come la cosa mi tocchi, perché anche nelle parole di Giovanni, come veniva fuori molto chiaramente, siamo tutti stati legati a lei da ammirazione soprattutto, ma anche da molto affetto. Anzi, vorrei ringraziare davvero pubblicamente l'Associazione Italiana Biblioteche, Rosa e tutto il CEN per avere così voluto questo incontro di oggi. Anzi, volevo anche dedicare questo mio intervento a Lalla Soju, che è la mia carissima amica che è mancata quest'anno e che ricorderemo in fine mattinata. Dunque, io ho intitolato questo intervento Impegno Civile perché ritengo che l'attività professionale di Vinai sia proprio da leggere seguendo il filo di questo impegno. Di questo impegno che era quello di, come si diceva forse una volta, ma di un servitore dello Stato. Un impegno che ha le sue basi anche nella biografia di Angela Vinai. Vinai è cresciuta in un ambiente familiare nel quale era diffusa una moralità un po' severa, una grande famiglia lombarda di orientamento cattolico, la famiglia Pietra, la cui casa era a Castellarquato, in provincia di Piacenza, da dove il padre per lavoro doveva spostarsi e lo faceva con tutta la famiglia. E come ricordava Giovanni, si è impegnata durante la guerra come staffetta partigiana e nel dopoguerra nel gruppo dei cattolici comunisti con Felice Balbo e Franco Rodano, e sempre seguendo una precisa scelta politica è stata presente e attiva nella CGIL, nell'affiancare a volte anche criticamente il Partito Comunista Italiano. A mio parere sono tre i momenti in cui l'impronta civile, anzi direi quasi etica, del lavoro di Vinai si coglie appieno. Il primo è quello della scelta della professione. Io in un'altra occasione vi ho fatto cenno. Angela Vinai, quando dovette scegliere la professione, decise di fare la bibliotecaria, rinunciando all'assistentato universitario e all'insegnamento, due concorsi nei quali negli stessi anni aveva vinto un posto di ruolo. La sua carriera professionale inizia a Pavia, dove incontrò e sposò nel 1955 Gustavo Vinai, allora direttore della biblioteca universitaria, poi docente di storia medievale alla Sapienza, e successivamente si svolse a Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, poi all'Alessandrina e infine all'Istituto Centrale del Catalogo Unico. Le tematiche relative alla gestione della biblioteca erano uno degli aspetti che Vinai curava molto e a cui dedicava importanza e attenzione. E lo scrive chiaramente: non è una mentalità del genere conservare, conservare soprattutto, isolare, che oggi ci serve per uscire dai nostri guai. I nostri guai forse erano proprio la mancanza di un sistema nazionale delle biblioteche. E quindi, forte dell'esperienza sulla gestione di una grande istituzione come la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, di cui intorno agli anni 70 era diventata vice direttore, Vinai, anche cogliendo l'occasione del trasferimento alla nuova sede, questa dove siamo adesso, aveva portato avanti nella biblioteca una innovativa sperimentazione all'insegna dell'evoluzione dei servizi, dei sistemi e delle procedure di gestione, e ponendo grande cura all'organizzazione dei magazzini, degli uffici, ai servizi al pubblico. Io stessa ho ricordato come una delle prime sezioni della biblioteca che fece conoscere ai giovani bibliotecari di prima nomina, fra cui anche io, fu appunto il funzionamento dei magazzini, e ci mandò per alcuni giorni fra le scaffalature del Collegio Romano. Per collegarmi però al tema di questo incontro, desidero sottolineare i vari aspetti dell'attenzione di Vinai ai servizi nazionali. Come è noto, si tratta di quell'insieme di attività e di servizi che costituiscono il fondamento su cui poggia il sistema delle biblioteche di un paese. Uno dei segni con cui si caratterizza il suo livello di democrazia e di civiltà e insieme il suo biglietto di presentazione a livello internazionale. Per quanto detto, collocherei poi nel 75 il secondo momento in cui si evidenzia l'impegno civile di Angela, e insieme si concreta la scelta di dedicare la propria professionalità al miglioramento dei servizi nazionali. Viene istituito, come è noto, in quell'anno il nuovo Ministero per i Beni Culturali e Vinay, che aveva rifiutato l'incarico di direttore generale delle biblioteche che le era stato offerto da Spadolini, ministro padre del nuovo ministero, volle prendere la responsabilità di accettare invece la direzione dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico. La sfida era quella di trasformare il vecchio Centro Nazionale del Catalogo Unico, una languente struttura sempre in ritardo sul programma di lavoro e i cui modesti risultati lasciavano molte perplessità sulla sua utilità, per dare vita a nuovi progetti basati su scelte innovative di politica bibliotecaria. Scrive Carmela Perretta sinteticamente, ma cogliendo il punto dei problemi, fu essenziale aver capito che occorreva trovare sul terreno dell'organizzazione dei servizi a livello nazionale la ricomposizione dei ruoli e delle competenze, favorendo e suscitando interventi la cui qualità contribuì alla crescita dei bibliotecari italiani. Una chiara visione della qualità dei servizi di biblioteca degli anni 70 in un paese come il nostro, che come è noto non aveva avuto un sistema bibliotecario fortemente accentrato come in Francia o in Gran Bretagna, ci viene offerta dalle stesse parole di Vinay che vorrei proporvi e che dimostra come fin dal 77 l'attenzione ai problemi dei servizi nazionali e alla costruzione di un sistema bibliotecario costituisse il punto essenziale, il punto centrale del suo impegno e della sua attività. Scriveva Vinay: quando parliamo di mancanza di sistema bibliotecario, che cosa vogliamo intendere? In parole povere, intendiamo che in Italia, a differenza di quanto avviene nella gran parte dei paesi europei, se vogliamo rintracciare un libro o una rivista che non figurino nei limitatissimi e mai aggiornati repertori, dobbiamo ancora ricorrere all'arcaica procedura di spedire per posta una richiesta ad un numero X di biblioteche, senza essere per lo più in grado di immaginare in precedenza se la nostra scelta è pertinente oppure no, senza sapere se l'accertata presenza del periodico o del libro in una sede è garanzia di poterne disporre, vista la varietà di regolamenti che governano l'uso del prestito e la discrezionalità riconosciuta al funzionario preposto. Non vi è per il cittadino nessuna certezza che il suo diritto al libro sia reale e non piuttosto governato dal caso o dal capriccio. E Vinay concludeva riferendosi soprattutto alla dispersione dei patrimoni bibliografici italiani, frutto, come noto, della storia politica preunitaria del nostro paese. Questo ci porta, dice Vinay, a dover accettare il fatto che un singolo istituto non può soddisfare con le proprie risorse la necessità della sua utenza e che sempre più occorre considerare il servizio bibliotecario in termini di cooperazione e di partecipazione. È facile notare queste parole, come queste parole e considerazioni ci siano già in queste parole, dicevo, tutti i presupposti del progetto per SBN. Ma voglio solo rapidamente ricordare le principali iniziative intraprese da Vinay al lavoro nell'ICU, prima di parlare un momento ancora di SBN, in cui mise tutta la sua passione, come diceva giustamente Giovanni prima, la sua lungimiranza, la sua autorevolezza, sapendo anche utilizzare le doti diplomatiche che aveva quando era necessario. E sua la coraggiosa decisione di interrompere il catalogo collettivo a stampa, avviando invece nuove operazioni di censimento, nelle quali furono coinvolte tutte le biblioteche italiane, indipendentemente dall'appartenenza amministrativa. Iniziative che hanno prodotto nel tempo cataloghi collettivi, oggi inseriti e visibili in SBN, articolati per tipologia di materiale o per periodi temporali, dalle opere del Cinquecento ai manoscritti, seguendo sempre il filo in conduttore di un approccio integrato, superando la frammentazione. Sul tema del deposito obbligatorio delle pubblicazioni si deve un lungo lavoro a Vinay e insieme a lei e dopo di lei ad Anna Maria Mandillo. Vinay riuscì a portare l'attenzione dei politici all'attenzione dei politici l'esigenza di rivedere la legge del 39. Successivamente, per l'instancabile, tenace e paziente impegno di Anna Maria, si arrivò solo nel 2004 all'approvazione di una nuova legge, successivamente poi accompagnata dai regolamenti attuativi. Anche sulla catalogazione Binai si mosse per, che era stata membro della commissione ERICA, si attivò per promuovere l'applicazione e sollecitare ai bibliotecari una reale presa di coscienza del nuovo codice e sostenne tutte queste iniziative che ho citato e anche altre, non c'è tempo di citare, con la consultazione di esperti. Come diceva giustamente prima Giovanni, non è mai stata sola, lei ha sempre tenuto a rispettare le competenze altrui e quindi consultando esperti sia italiani che di altri paesi, istituendo commissioni di studio, organizzando convegni pubblici, portò a fare in modo che le decisioni che prendeva come direttore dell'ICO fossero condivise, fossero supportate, diciamo, dalla competenza di altri bibliotecari o studiosi. Ma veniamo a quello che chiamerei il terzo momento del suo impegno civile per i servizi nazionali, quello che riassume tutte le esperienze maturate, le riflessioni, i progetti, la realizzazione di SBN. Voglio partire a questo proposito da una bella definizione di Luigi Crocetti, che scrisse che SBN era un progetto di ricomposizione del disegno complessivo della realtà bibliotecaria italiana. Come è noto, verso gli anni 70, per superare i problemi su cui si ragionava da tempo e che Binai aveva identificato pubblicamente in più occasioni, a partire dalla Conferenza Nazionale delle Biblioteche del 1979, anche, devo dire, per la delusione che i bibliotecari hanno avuto nel leggere le conclusioni delle commissioni Franceschini e del limitato spazio e anche peso dato alle biblioteche in quella commissione. E Angela capì che era necessaria un'iniziativa che, facendo leva sulle funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate alle istituzioni nazionali, proponesse un modello operativo unificante. E vi si impegnò con tutte le sue energie e la sua competenza, anche tenendo conto del fatto che in quegli anni l'uso di strumenti informatici aveva iniziato a diffondersi nelle biblioteche e rischiava di proliferare in maniera disordinata. Si rese conto anche che con il nuovo Ministero i Servizi Nazionali avrebbero avuto un ulteriore slancio e nuove possibilità. Si rese conto che occorreva cercare e riuscì a trovare le necessarie alleanze, oltre all'attenzione del Ministero, anche quello delle regioni, prima poi del mondo universitario. Aveva apprezzato il sistema delle caratteristiche innovative studiato da Michel Boisset per l'Istituto Universitario Europeo, che univa al progetto organizzativo per le biblioteche l'utilizzo delle tecnologie, e con la definizione da parte di una commissione ad hoc si avviò il progetto. Il filo conduttore era quello della cooperazione, l'abbiamo detto tante volte nel tempo, e le biblioteche venivano a configurarsi con il nuovo termine di unità di servizio. In quel felice contesto, veramente felice, nel senso che si vedeva costruire, si vedeva crescere qualcosa di importante, felice in particolare per me, perché ho fatto parte di questo gruppo di persone davvero eccezionale. È importante però ricordare anche il ruolo di sostegno e di affiancamento svolto dall'associazione professionale, dall'AIB, della quale fino all'81 Binai, come si diceva, è presidente. A SBN l'associazione, durante la presidenza Crocetti, dedicò uno dei più riusciti convegni, quello di Taormina del 1982. E alcuni anni dopo Binai così descriveva questa fase. Era tanta la voglia di uscire dall'angustia del dibattito sulla distinzione dei ruoli fra biblioteche dello Stato, dell'ente locale e dell'università, che la proposta del Servizio Bibliotecario Nazionale trovò un largo consenso e ad accrescerle fascino era la natura informatica della soluzione tecnica che si prospettava. E vennero poi nel corso degli anni il riconoscimento legislativo, la concessione di risorse finanziarie, la firma dei protocolli d'intesa, Ma anche, voglio ricordare anche che su altri fondi questi anni segnarono la crescita della cultura professionale fra i bibliotecari italiani. L'abitudine al confronto, all'uso degli standard, di nuovi strumenti, non solo per la catalogazione, ma anche per far evolvere la gestione, all'importanza data alla qualità dei servizi al pubblico, superando egoismi ed esasperazioni autonomistiche. E voglio rimarcare ancora una volta il ruolo di volano che ha avuto SBN e che continua a costituire nel tempo. Senza il catalogo formatosi col lavoro dei bibliotecari e i servizi che ne sono scaturiti, molti progetti di ricerca, di raccolta di dati e immagini, di accessibilità realizzati nell'insieme delle biblioteche italiane non sarebbero stati possibili. Oggi, voglio aggiungere, senza le informazioni raccolte in SBN, neanche il progetto, il bel progetto per il PNRR avrebbe appeal, ma sarebbe una bella scatola vuota di contenuti rilevanti, anche sul piano numerico, oserei dire. Eppure, nonostante questa febbrile attività, non hanno mai perso di qualità i rapporti di Angela Vinay con le persone con cui lavorava, con i colleghi, con i collaboratori, a qualsiasi livello. Con tutti aveva un rapporto fatto di grandissima umanità, ma che escludeva il comodo permissivismo. Era cordiale e attento anche agli eventi personali, che sapeva dare sicurezza alle persone. La porta della sua stanza era sempre aperta e lavorava con tutti, senza bisogno di far pesare il rapporto gerarchico, ma, come ricordava anche Giovanni, era sufficiente un suo sguardo severo per capire che stavi sbagliando. E sapeva creare anche un forte spirito di coesione tra le persone e suscitare le loro energie, creando legami che sono rimasti solidi nel tempo. Ecco, io ho concluso e vorrei soltanto lasciare un ricordo personale. Forse qualcuno avrà notato lo sfondo della locandina preparata per l'incontro di stamattina. Si tratta del retro di una fotografia scattata nell'agosto del 1985 che Lalla Soggio aveva voluto farsi firmare dai partecipanti all'incontro per SBN che era stato organizzato da Michel Boisset nella sua casa di campagna nel Beaujolais. In quelle giornate si discusse, ecco, anzi pregherei di mandare queste foto che avevo portato. Dunque, in quelle giornate, dicevo, si discusse di SBN, si discusse animatamente, ma ecco, vorrei proprio sottolinearlo, con lo spirito di rispetto reciproco e di solidarietà che caratterizzava i rapporti fra le persone di questo gruppo. E per dare l'idea appunto di questo clima piacevole e sereno, ho voluto condividere con voi alcune foto della mia collezione privata. Allora, non so se devo parlare delle persone, grazie, che sono nelle immagini. Angela Vinay qui è con Corrado Pettenati, ingegnere dell'Istituto Iniziario Europeo, che anche gli faceva parte del nostro gruppo. Ora vedo se riesco a mandare avanti questo oggetto. Ah no, devo puntare di là. Ma non cambia. Ah, ecco, va bene. In ogni modo sono appunto delle foto, come vi dicevo, molto, come dire, molto, che danno il clima. Ecco, condividere con voi questo clima veramente bello che ha animato quegli anni. Questa sono io insieme con Angela Vinay e questa è la famosa foto che ha girato tanto. Della tavola, questa è Lalla Soggio insieme a Susanna Peruginelli e ancora una tavolata dove si vedono i vari partecipanti, c'è Crocetti, c'è Pettenati, ogni tanto non cammina sto coso, ci provo, c'era una bella foto di Tommaso Giordano che volevo farvi vedere ma non viene fuori. Per fare il confronto tra Pettenati. E volevo farvi notare anche che in queste foto sono presenti ben 3 presidenti AIB, c'è Vinay, Crocetti, Giordano, quindi insomma non male, però non viene fuori l'ultima, non importa, questo va avanti, sì. Non so se, chissà se ho fatto il movimento giusto, scusami Agnese, sì grazie. ultima. Vabbè, non importa, dai. Ci accontentiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, Giovanna. Due cose vorrei riprendere molto brevemente il suo intervento. Da una parte, questo, quando Giovanna ha accennato al fatto che in caso di necessità Vinay sapeva anche essere diplomatica. In questo era aiutata dal fatto che, per esempio, contemporaneamente, per molti anni Vinay è stata direttore dell'ICO e presidente dell'AIB. Questo le consentiva, a seconda dei casi, di utilizzare una veste o l'altra a seconda, come dire, della parte che doveva recitare. Giovanna ha ricordato la conferenza nazionale del 79, che fu un evento importante in cui furono chiamate a raccolta un po' tutti per disegnare un po' il futuro del sistema bibliotecario del paese, poi da lì nacque SBN, eccetera, eccetera, il metodo della cooperazione e così via. Ecco, Vinay, che aveva molto spinto, diciamo, per questo evento che fu organizzato dal Ministero, intervenne in quanto presidente dell'AIBA a quella manifestazione, e nel volume che ricordavo prima è presente anche la relazione che tenne Vinay in quell'occasione, in cui da parte dell'AIB e quindi da parte delle biblioteche e dei bibliotecari sottolineava la necessità che le biblioteche italiane diventassero finalmente un sistema. Credo che di cose di questo tipo ci parlerà adesso Claudio Lombroni, che negli anni abbiamo visto sempre molto impegnato in SBN, prima nella provincia di Ravenna, adesso la regione Emilia-Romagna, e lui appunto ci parla proprio della ricomposizione del quadro istituzionale delle biblioteche italiane. Buongiorno a tutti. Sì, che sono parole tratte, come vedremo, da uno scritto della Vinay. Io avrei, ecco, delle slide, vediamo se funziona. Eccoci. Lasciamo qui. Mi metto anche il cronometro, così non... Ormai 20 anni fa, quando scrissi un lungo saggio per la storia delle biblioteche italiane di Traniello, io detti l'elaborato in visione a Nazareno Pisauri, che molti di voi ricorderanno. Pisauri, che stava per andare in pensione ed era direttore dell'Istituto Beni Culturali, non mi fece rilievi, disse solo: ricordati di sottolineare il ruolo politico della Vinay, perché è a lei e a questo ruolo che si deve la nascita di SBN. Ora, detto da un campione dell'autonomismo regionale, questo giudizio era indubbiamente, doveva corrispondere, come dire, alla sostanza, e questo... Io non ho conosciuto la Vinay, ma Ravenna ne è stata per molti aspetti una testimone. Questo coincideva con quanto mi diceva sempre Igino Poggiali, che lo vedo là in fondo, e al quale direi che forse ha la colpa di avermi avviato alla professione. E in effetti, già dalle cose che abbiamo sentito, la Vinay svolse un ruolo straordinario, che adesso vedremo, e indubbiamente la sua azione va contestualizzata in quegli anni. Gli anni 70 sono anni che noi ricordiamo magari per gli anni di piombo, per tante la crisi petrolifera, ma sono anni che in realtà sede storiografica vengono oggi rivalutati, perché sono nati tante cose, ma sono anni in cui dal punto di vista istituzionale accadono tante cose. L'autonomia regionale prende corpo, nasce il ministero, si afferma una visione di biblioteche partecipata che novella Sansoni, perché vedo Belotti in lontananza, quindi mi viene spontaneo, che novella Sansoni ha raccontato anche e ha descritto in quegli anni. Era l'epoca della gestione sociale delle biblioteche. Tuttavia, la nascita delle regioni, che suscitò tantissimi entusiasmi, non solo nell'associazione, queste sono parole della Vinay, anche nella conferenza romana del 79 qualificò l'IB come regionalista. Il regionalismo aveva attratto molti noti bibliotecari, non solo il Pisauri che passò dai ruoli statali a quelli regionali, ma pensiamo alla figura di Casa Massima, pensiamo a Giorgio Guarino. L'IB ha una lungo in quegli anni una lunga elaborazione a favore di questo fenomeno istituzionale nuovo. Poi, come accade in molte cose degli uomini, all'entusiasmo venne poi l'epoca, e soprattutto negli anni Ottanta, della disillusione, dell'idea di essere un'occasione mancata. Questo è anche il titolo di un saggio molto, molto importante di Alberto sull'Enciclopedia Treccani a proposito delle regioni. Le regioni erano l'autonomia regionale, come molti istituti qualificati della Costituzione, avvenne molto tardi rispetto a quella, ma avvenne questo lasciando gli enti locali ancora con la legislazione di epoca fascista. Sono solo all'inizio degli anni 90 che gli enti locali poterono avere una legislazione più attuale, più commisurata la contemporaneità. Quindi, ad esempio, quando il polo Ravennate cercò di espandersi e si espanse verso Rimini, Forlì, Cesena, credo che Igino Poggiali dovette interloquire spesso col segretario generale, perché sulla base della norma era fuori dalla comunità, dal perimetro degli interessi provinciali. Quindi questa era la situazione. L'impegno politico della Vinay lo vedete anche in questa, nel suo editoriale, primo editoriale da presidente dell'associazione. Era un impegno, come è stato ricordato, a tutto tondo, non era soltanto diciamo nella politica, ma è anche rivolto all'associazione, e dava ai bibliotecari un impegno che secondo me deve essere ancora, è ancora attuale, di cui si deve far carico l'associazione, cioè di trasformare la realtà bibliotecaria italiana. Questo è ancora attuale, e chi fa la storia di SBN forse gobettianamente si accorge di fare un'autobiografia della nazione, perché molti dei problemi o molte delle soluzioni hanno ancora, ci dicono ancora qualcosa nell'oggi. Esempio, fare la storia di SBN vuol dire anche incontrare il rapporto tra Stato e Regioni, che è tuttora dialettico. Forse non appare, e adesso io lo vedo sul versante Regioni, ma è molto dialettico e si sostanzia anche in plurimi ricorsi alla Corte Costituzionale, che da anni, in barba potrei dire, alla leale collaborazione, cerca di intervenire per sanare questi rapporti. In questo contesto SBN rappresenta una risposta ai problemi della realtà italiana, lo ricordava prima Giovanna, e questo parole di un intervento di Angela Vinai in un convegno noto, che mi pare sia Regioni e Sistemi Bibliotecari a Monfalcone nell'82, vedete che chiarisce la genesi e la risposta che viene data alla situazione del Paese. Dice: a spingere l'Istituto ad assumere l'iniziativa, quindi l'iniziativa di avviare il percorso che porterà SBN, quindi la Commissione per l'Automissione per le Biblioteche, eccetera, sono state sia le deludenti conclusioni della Conferenza Nazionale tenutesi a Roma nel 79, e sia la mancata attuazione dell'articolo 48 della legge 616. Quindi è l'impasse, come lo definirebbe Cammelli, Stato-Regioni, che si evidenzia nella conferenza romana del 79, in cui peraltro Angela rileva anche il clima conflittuale o poco tra le due nazionali centrali, e sul versante autonomie regionali l'avere dato corpo al trasferimento di competenza senza la previsione di quell'articolo 48 che era la legge quadro che avrebbe dovuto governare questo passaggio e includere anche la tutela e la conservazione. Questo poi successivamente diventerà, penso ad Anna Maria Mandillo, uno degli argomenti dell'azione anche dell'associazione. Di fronte a questa situazione, dice, guarda, io ho grassettato alcuni elementi che sono, di fronte a questa situazione, SBN, che quando parla il progetto è questo, ha l'ambizione di proporsi come la strategia bibliotecaria degli anni Ottanta. Parte da una duplice premessa, una politica e una tecnica. La premessa politica consiste nell'accettare la situazione giuridico-amministrativa delle biblioteche, rinunciando a perseguire l'obiettivo di una riforma istituzionale, perché questa non era stata possibile. Vedi l'articolo 48, vedi gli esiti della conferenza romana. E quindi la soluzione era porsi obiettivi di servizio. Qui siamo nell'82. Quello che prima, anche nell'elaborazione dell'AIB, era il sistema bibliotecario, già nell'81, in un famoso articolo di Vinai Boissé sul Ponte, qui ancora più evidente, diventa servizio bibliotecario nazionale, perché nella semantica c'è la soluzione per ricondurre le varie biblioteche di appartenenza plurale a obiettivi condivisi che non potevano essere di sistema, stante, come dice, la mancanza di una riforma, ma solo di servizio. Il tema del servizio sarà anche per Novella Sansoni per gli anni Ottanta cruciale, perché la biblioteca dalla gestione sociale dirà deve passare a essere un servizio consapevole, a presentarsi e porsi come servizio. Andando un po' prima, e quindi prima della conferenza romana, questo siamo nel 77, ma già nel 75 Angela Vinai aveva cominciato a porsi in questi termini globali il problema. Questa è la consulta del Partito Comunista per i beni culturali. Gli atti sono nell'archivio del PC presso l'Istituto Gramsci di Roma. E io e Giovanna abbiamo fatto un'incursione proficua perché abbiamo trovato alcune cose. Una è questa, e qui vedete che sta parlando quindi a uno degli attori politici. Angela Vinai era vicina al Partito Comunista, credo come indipendente, come si dicevano allora, di sinistra, ma interloquiva con tutti per raggiungere l'obiettivo che si era posta. Il compito che noi riteniamo prioritario, dal quale dobbiamo sensibilizzare il Consiglio nazionale, questo è il Consiglio nazionale dei beni culturali a cui allude, è la ricomposizione del quadro bibliotecario nazionale, finalizzato a due scopi: ad evitare di approfondire il divario di servizi tra regioni e regioni, perpetuando in molte regioni la situazione creata dall'assenza dello Stato. Veniva richiamato all'inizio i problemi ancora del divario tra nord e sud. La funzione di... sono andato troppo velocemente, però anche questo è pertinente, è uno scritto sull'unità, sempre di Angela Vinai, in cui in sostanza dice... la situazione italiana, fatta che ha consentito alle regioni negli anni 70, quelle anche più entusiaste del ruolo, più volenterose, di creare non solo tante leggi, ma anche tante realizzazioni, rischia di essere... di creare un paese a due o più velocità, perché in alcune regioni è stato così, in altre no, si rischiano fughe in avanti con il rischio che ci sia forze centrifughe che impediscono un servizio omogeneo e ancora sul territorio nazionale. E ancora una volta, vedete, emerge questa idea di rispondere alle lacune, ai problemi anche istituzionali che si riflettono nel nostro mondo delle biblioteche, con l'idea di un servizio, cioè di chiamare a raccolta biblioteche di diversa appartenenza nel nome di un servizio all'utente, che è quello che poi Giovannella prima ha illustrato e che accomuna anche, ad esempio, Crocetti. Più volte ne parla, cioè compito di SBN, compito primario, non è il catalogo, cioè il catalogo è uno strumento, è assicurare la fruizione di documenti su tutto il territorio nazionale. Questa è Vinai nella conferenza del 79, vedete che ribadisce le posizioni dell'AIB come regionalismo. Stesse cose, più che altro, vedete, sì, perché c'è una continuità di pensiero, io sto passando tra il fine anni 70 e inizio anni 80, ma anche a Monza, altro noto convegno che si tenne in Lombardia, vedete che ritorna il concetto: porre la questione dei rapporti Stato-Regione nei termini che abbiamo detto vuol dire lasciare le cose nello stato di disgregazione e irrazionalità che conosciamo. L'impossibilità di riforme istituzionali, l'imperfetto decentramento della regione. E ancora una volta è nostra convinzione che la preoccupazione certamente legittima di salvaguardare l'unità non si raggiunge con l'immaginare gangli di raccordo burocratico, ma sviluppando concetti di cooperazione e partecipazione in un'impresa nazionale, qui ho trascritto in modo errato, sulla base della complementarietà degli istituti e della globalità del patrimonio che essi conservano. Sulla parte finale della sua vita, prima a Firenze, prima a Ravenna, quando appunto aveva la disillusione per il decennio, diciamo, degli anni 70, delle aspirazioni riposte nelle regioni. Io ricordo che nell'80, tanto per dire che era un sentire comune, nel 1980 sul mulino apparve uno scritto di un giurista, Giorgio Pastori, che era intitolato Regioni senza regionalismo, cioè, come a dire, le regioni avevano perso la spinta propulsiva fatta dell'idea di un nuovo modo di governare, di un modo partecipato. Quindi è una sensazione, diciamo, diffusa non solo nel mondo dei bibliotecari. Ecco, a Firenze, questo è un discorso alla nazionale, ritorna, vedete, sugli obiettivi di SBN, quindi Esso si propone da un lato come superamento della contrapposizione tra competenze dello Stato e della Regione, chiamando ciascuno ad operare nel rispetto dei rispettivi ambiti istituzionali, dall'altra come modello di organizzazione dei servizi in grado di riequilibrare il divario tra regioni ricche e regioni povere, garantendo uguale opportunità di conoscenza. Vedete, siamo nell'88, ma ripropone ciò che aveva scritto sull'unità nel 77, che aveva detto in altri convegni, che aveva detto nei consessi interni del Partito Comunista. Cioè c'è una coerenza di pensiero per cui SBN ha lo scopo proprio di superare la contrapposizione di competenze tra Stato e Regioni. Questo è un grande impegno politico che ha, secondo me, una valenza attuale ancora più grande di quella che si possa pensare. E a Ravenna chiarisce, sempre per rimanere tra servizio e sistema, ho avuto nel mio lavoro un incontro, diciamo, posso dire istituzionale, in cui un assessore ha detto: dobbiamo costruire in Italia il sistema bibliotecario nazionale come è stato fatto per i musei. Quindi sembra passato un'eternità. Ecco, qui Angela Vinay spiega, consentitemi, si vede che l'IB, questo è l'ultimo, credo, intervento pubblico di Angela Vinay, e qui forse Igino Poggiani ne è testimone, perché credo abbia avuto una parte non indifferente anche nella organizzazione di questo evento. Dice: consentitemi di cogliere un piccolo spunto polemico dalla formulazione del titolo assegnato al mio intervento, laddove si individua SBN come sistema e non come servizio. Al di là del significato filologico, ritengo che non sia ancora chiara ed inequivocabile in molti bibliotecari e nella quasi totalità degli utenti la diversità di concezione organizzativa che sta dietro l'uno e l'altro termine. Ripeto, per Angela Vinay servizio significava ricomporre uno strumento per ricomporre la diversità istituzionale delle biblioteche italiane, lanciandole in obiettivi ambiziosi di servizio. Chiudo, perché questo è una cosa, quindi questa è l'attualità più queste sono le proposte delle regioni al nuovo governo nell'ambito della cultura, che sono quasi in orario, vedi? Non va bene la tua scheda. 20 minuti. Si trova sul sito www.regioni.it, quindi vedete, questa è l'agenda. Le biblioteche ovviamente non hanno un posto. Tuttavia siamo riusciti, come Regione Emilia-Romagna, e abbiamo trovato spazio paradossalmente accanto al sistema museale nazionale, vedete che trovate completamento del sistema museale nazionale e rilancio del servizio bibliotecario nazionale. Credo che di questo periodo sia la prima volta, io ricordo che vedo, devo dire, ho pensato molto a Simonetta in questi anni, perché io sul versante regioni, che non è mio costume abbandonare e lasciare gli amici, Simonetta sta gestendo SBN non solo con un organico vergognosamente ridotto al minimo, ma senza che quei strumenti che la stessa Angela Vinay aveva individuato come novità, come ricomposizione delle biblioteche, cioè i protocolli SBN, siano vigenti. Sono almeno 10 anni che il... Dalla fine del 2016. Quasi. quasi 10 anni che sta operando senza una cornice istituzionale. E questo è ora, in questa cosa, nella parte non scritta, c'è anche una richiesta appunto di avviare, di insediare gli organi di governo, e credo che questo debba essere un impegno comune non solo delle regioni, ma in primis dell'associazione e di tutti noi, perché quello che diceva la Minai anche adesso è valido: noi dobbiamo trasformare la realtà bibliotecaria di questo paese, perché ha ancora moltissimi problemi. Grazie e scusate per i 5 minuti di ritardo. Grazie a Claudio. Mi avrebbe fatto piacere riprendere un paio di cose del tuo intervento, ma non lo faccio, così come non chiedo a Luca Bellingeri di farsi carico del sforamento. Quindi mi accontenterei che tu non sforassi. Una volta. Ecco, Luca Bellingeri, che come sapete è direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze, ha invece il compito di ricordare appunto il ruolo di Angela Minai rispetto alla nascita del Ministero, il dibattito famoso per chi lavorava in quegli anni sull'articolo 15 e i servizi di bibliotecazione. Prego Luca. Del tutto casualmente l'intervento di Claudio si conclude con una riflessione che si allaccia perfettamente all'inizio del mio. È un mistero quale possa essere il destino delle biblioteche dello Stato che entra in un carrozzone i cui posti a sedere sono visibilmente prenotati da compagni di viaggio così grossi e vocianti che sarà allora assai difficile trovare un posticino d'angolo. È chiaro che siamo, secondo ogni apparenza, i pigionanti di turno a cui i padroni di casa estendono alcuni dei loro diritti. Questa citazione, che a me piace molto, ho già impiegato in altre occasioni, è tratta da un intervento di Angela Minai al congresso AIB di Fiuggi del 1967, dedicato, è stato già accennato poco fa da Giovannella Merola, al tema della Commissione Franceschini e le biblioteche. Quanto ricordato poco fa testimonia la lungimiranza di Angela Minai anche da questo punto di vista. La sorte delle nostre biblioteche all'interno del Ministero, nelle sue varie denominazioni succedutesi nei 50 anni di vita, è stato sempre marginale e, aggiungerei, la sciagurata riforma Franceschini ha fatto sì che quel piccolo strapuntino di biblioteche sia stato in parte occupato dai vicini vocianti, con l'annessione di alcune delle maggiori biblioteche italiane a sistemi museali variamente definiti. Tuttavia, questa puntuale e intelligentissima previsione di Angela Minai, quando da lì a qualche anno nascerà il Ministero, per un breve periodo sembra lasciar sperare in una possibilità di utilizzare questo nuovo strumento del Ministero dei Beni Culturali per un rilancio del sistema delle biblioteche. E in più occasioni si coglie l'ottimismo con cui inizialmente viene vissuta questa riforma, questa nuova assetto istituzionale che viene dato al settore dei beni culturali e quindi anche delle biblioteche, anche se poi appunto in interventi degli anni 80 di Angela Minai si capirà anche la delusione invece che poi nel tempo è subentrata a quell'ottimismo iniziale. Uno dei motivi per cui questo cambiamento, mutamento istituzionale lascia sperare che ci possa essere un nuovo corso per le nostre biblioteche è il fatto che proprio a seguito di quella trasformazione del Centro Nazionale per l'Informazione per il Catalogo Unico, ricordato poco fa, in Istituto Centrale per il Catalogo Unico, a seguito della nascita di questo nuovo istituto, il regolamento e l'organizzazione del Ministero si trova in qualche modo quasi costretto e sicuramente influenzato dalle pressioni anche di Angela Minai a prevedere all'interno dell'articolo dedicato al nuovo istituto un, per bibliotecare la nostra generazione, celebre comma, il comma 4, che non solo prevede l'emanazione di un decreto in cui siano disciplinati i rapporti fra le due biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, ma la necessità di questo decreto deriva dalla finalità, dice l'articolo, di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico. Due aggettivi che non si erano mai utilizzati né potevano essere utilizzati per il nostro sistema bibliografico, che tutto è ed era meno che coerente e coordinato, l'abbiamo sentito anche poco fa, rispetto ai temi delle regioni. Quello fu un momento di grande speranza in cui si pensò che attraverso questa via un po' indiretta e subdola, ma insomma utilizzando la leva del nuovo Istituto Centrale del Catalogo Unico, si potesse tornare su una tematica che accompagnava le nostre biblioteche esattamente da un secolo, e cioè su come dovessero in qualche modo convivere le due nazionali centrali di Roma e di Firenze. Sappiamo tutti che quel decreto non avrà mai luce, del resto sembra essere una simpatica abitudine del nostro ambiente, del nostro ministero, quello di preannunciare decreti che poi non vengono realizzati. Qui in sala è presente Giovanni Bergamin, che l'ha seguito in più riprese. Sono 16 anni che noi attendiamo il decreto che avrebbe dovuto disciplinare il deposito legale delle risorse digitali, che a tutt'oggi, per le quali a tutt'oggi non vige l'obbligo di deposito, e quindi lascio immaginare quale danno per la nostra memoria futura abbia creato questa situazione, né mi pare siamo in una situazione in cui si possa prevedere ragionevolmente che a breve questo decreto venga emanato. Bene, quel decreto non uscirà mai. Non uscirà mai e, ancora una volta, a conferma della lucidità di Angela Vinai, il convegno del 79, che è stato già citato plurime volte, e in quell'occasione, fra le altre cose, Angela Vinai, allora presidente dell'AIB, ricorda come la disciplina prevista dall'articolo 15 fino ad oggi non è stata emanata, non tanto per remore di natura politica o burocratica, quanto per difficoltà all'interno del mondo bibliotecario, che stenta a rompere con la tradizione consacrata nei regolamenti introduttisi lungo un secolo. In realtà fu molto diplomatica, perché più che per non rompere la tradizione, il problema nasceva dal fatto che non ci si metteva d'accordo brutalmente. Cioè, le figure coinvolte, quindi in primis i direttori delle due nazionali centrali, non trovavano e non trovarono un punto di equilibrio che consentisse l'emanazione di questo decreto. Ciò nonostante, di questo decreto si continuava a parlare ancora per un tempo infinito. Uno degli ultimi interventi, anche questo già ricordato, di Angela Vinai dell'88 a Firenze, parla di questo decreto come di una cosa che sta per essere prodotta. Sono passati 13 anni dalla previsione del 805. La proposta di decreto per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, formulata dal Comitato di Settore, riconosce alla Nazionale di Firenze la responsabilità di garantire la conservazione nel tempo della produzione editoriale nazionale. La realtà di SBN suggerisce che tale compito venga affrontato in maniera diversa da quella fin qui ipotizzata. Il contesto telematico nel quale si andrà operando consente una più articolata suddivisione di compiti fra gli istituti che per legge sono implicati nel processo del deposito obbligatorio. Spetta sicuramente alla BNCF approfondire gli aspetti del problema, rifiutando logiche totalizzanti che pregiudicherebbero in concreto la realizzazione dell'archivio. In questo quadro, la responsabilità delle due biblioteche nazionali centrali vanno meglio definite, pur accettando la distinzione di funzioni concordate in sede di comitato, preferibilmente conservative, quelle della Biblioteca Fiorentina, di uso pubblico, entro limiti da stabilire, quello della Consorella Romana. Dunque, in questo intervento si configura una forma di coordinamento o quantomeno di suddivisione di compiti fra le due nazionali centrali. Faccio notare però che anche da queste righe di questo contributo emerge come il pericolo di logiche totalizzanti da parte della Nazionale di Firenze fosse ben presente all'Angela Vinai, e per converso come quella ipotesi di distinzione dei ruoli prevedesse per la nazionale romana un ruolo sostanzialmente legato al servizio e quindi all'uso pubblico, che, e qui sono testimone diretto, ad esempio non fu assolutamente condivisa da quello che poi sarebbe diventato poco dopo il direttore della nazionale romana, cioè Paolo Veneziani, che reclamava, e forse non del tutto a torto, per la nazionale di Roma anche un ruolo di guida nell'ambito dell'antico, della catalogazione dell'antico, in virtù della tradizione romana dell'Indice Generale di Incunaboli e anche della costituzione proprio in quel lasso di tempo, di mesi, del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto presso la Nazionale Romana. E quindi anche questa fu un'occasione, diciamo, mancata e credo, a quanto mi risulta, l'ultima in cui si sia fatto riferimento a quel articolo 15 del 75. Essendo trascorsi 15 anni, nel frattempo il mondo era andato avanti, fortunatamente il contesto era cambiato, abbiamo appena finito di sentire come SBN da progetto fosse diventato sempre più una realtà e come da lì a poco partisse aggregando al suo interno sempre più realtà di più versanti istituzionali, affrontando in un'ottica quindi più pragmatica, più pratica, più tecnica, il tema dei servizi nazionali che fino a quel momento era rimasto più che altro a livello di dibattito. Di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali si tornerà a parlare una decina di anni dopo, nel 98, quando nasce il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nell'articolo 2, quello dedicato agli obiettivi del nuovo Ministero, grazie alla battaglia sostenuta in particolare da Anna Maria Mandillo, riuscirà a far inserire questa riga in cui si dice che fra i compiti del Ministero c'è anche quello dello sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali. Vedo che la storia si ripete, per cui anche nel proposto delle regioni con qualche fatica si è riuscito a far inserire una frase analoga. Per quanto riguarda però i rapporti dei due nazionali, sostanzialmente il tema non viene più affrontato e in questo lungo periodo i due istituti procedono su linee parallele, mai convergenti o quasi, ignorandosi essenzialmente l'una con l'altra, salvo qualche momento in cui, in base a chi momentaneamente ricopre l'incarico di direzione di quegli istituti, questo ignorarsi si trasforma in una battaglia più o meno sorda in cui ciascuna cerca di affermare rispetto all'altra delle, come dire, priorità, prevalenze nel confronti della gemella. Nel 2008, quindi facciamo un salto di altri 10 anni, avviene un altro passaggio che poteva essere significativo, perché le due nazionali centrali vengono dotate di autonomia e, in quanto dotate di autonomia, vengono regolamentate con un apposito decreto che, oltre a dare delle indicazioni sulle modalità di funzionamento, fornisce anche, all'interno di uno specifico articolo, l'articolo 6, un'elencazione di quelli che sono i compiti e le finalità delle due nazionali centrali. E in questa occasione, per la prima volta, vengono formalizzate alcuni aspetti che erano nei fatti, affidando per esempio alla Nazionale Firenze compiti specifici in materia di produzione della bibliografia nazionale, che era il compito storico tradizionale della Nazionale Firenze, ma anche di produzione di strumenti per la catalogazione semantica, alla luce della pubblicazione recente del nuovo soggettario, e di studio delle procedure per la conservazione del digitale. Quindi sicuramente si differenziano in alcuni aspetti le attività delle due nazionali, ma resta il fatto che delle, mi pare, 14, dei 14 punti che definiscono quelli che sono i compiti delle due nazionali, 10 sono sovrapponibili ed identici. Quindi il punto di come affrontare questi 10 obiettivi, ciascuna dal suo punto di vista, da parte delle due biblioteche, rimane comunque non risolto. E difficilmente potrebbe essere risolto, dal momento che ancora in anni molto recenti, e stiamo parlando di 2017-2018, le visioni che erano sottese, diciamo, alla politica dei due direttori, uno ero io, ma erano diametralmente opposte. Tra la fine del 16 e inizio del 17 vengono pubblicati due articoli su Aidon, la rivista del Mulino, dedicate ai beni culturali, uno è il direttore della Nazione di Roma e uno è il direttore della Nazione di Firenze, sempre che sono io. E il primo intervento, dal titolo Per una riforma del sistema delle biblioteche pubbliche statali, si sofferma anche sul tema delle nazionali. In quegli anni si parlava spesso e frequentemente di poli, della possibilità di creare dei poli bibliotecari sulla falsariga di quelli museali. L'auspicabile istituzione del polo delle biblioteche romane porta inoltre inevitabilmente a proporre che il nuovo soggetto venga identificato con la mai nata Biblioteca Nazionale d'Italia. Il fulcro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma non deve stupire. Essa è la più grande biblioteca del paese. Come la Bibliothèque Nationale de France coordina l'attività di altri istituti sul territorio, la Biblioteca Nazionale d'Italia dovrà essere investita del ruolo di coordinamento bibliografico delle più importanti biblioteche statali. In tale organizzazione dovrebbe collocarsi anche l'ICCU e l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, i cui compiti hanno dimensione nazionale, che deve necessariamente raccordarsi con l'istituto bibliografico più importante d'Italia, anzi costituirne una costola. Qualche mese dopo, appunto, in un successivo articolo dal titolo Le biblioteche pubbliche statali, quale futuro, rispondo in qualche modo a questa precedente presa di posizione, anzi rispondo anticipando che non concordo praticamente nulla di quello che c'era nell'articolo precedente e sul tema specifico, cioè i servizi bibliografici nazionali, sottolineo come se rimane confermato il ruolo primario svolto da alcuni istituti statali, appare tuttavia sempre più evidente come risulti ormai anacronistico pensare che essi possano assolvere adeguatamente tali compiti in una sorta di dorata solitudine e come al contrario anche in questo ambito si debba ragionare in termini di stretta cooperazione anche interistituzionale. Pensare ad un'unificazione delle due nazionali centrali appare oggi ipotesi non rispondente agli effettivi bisogni del nostro sistema bibliotecario. In assenza di un'effettiva politica che ne definisca i rispettivi compiti, i due istituti hanno infatti finito con il differenziare nei fatti le proprie funzioni, sviluppando ruoli e competenze propri ormai accertati e ufficializzati dai decreti ministeriali di autonomia. Meglio allora pensare a forme di cooperazione fra i due istituti che, superando quella che può essere la buona volontà momentanea di chi si trova alla loro guida, costringa le due biblioteche a lavorare in forma coordinata, sviluppando progetti comuni e comuni politiche di sviluppo. In realtà qualche tentativo da questo punto di vista era stato fatto già dal 2010, era stato raggiunto un accordo di collaborazione fra le due nazionali in tema di conservazione delle risorse digitali con il progetto Magazzini Digitali e proprio in quegli stessi mesi degli due articoli verrà sottoscritto un altro accordo di collaborazione per la condivisione, per la partecipazione della Nazionale di Roma, anche della Nazionale di Roma, alla realizzazione della Bibliografia Nazionale Italiana, un accordo che coinvolgeva Nazionale di Roma, Biblioteca Centrale Giuridica e BEIC. Purtroppo in entrambe le occasioni, diciamo al di là del buone intenzioni iniziali, l'effettiva poi collaborazione si rivelerà inferiore alle aspettative e di fatto per quanto riguarda Magazzini Digitali il grosso dell'onere della gestione di quel progetto rimarrà direi quasi integralmente sulle spalle Nazionale di Firenze. Per quanto riguarda la cooperazione in BNI, dopo un inizio promettente avremo un rapidissimo declino, per cui avevo qualche dato: se nel 2018, quindi subito l'anno successivo alla firma, le notizie prodotte da Roma saranno 386, in ogni caso 386 su circa 16.000 che la BNI conteneva in quell'anno, l'anno successivo scenderanno a 17 e dal 20 in avanti la collaborazione si interrompe. Per cui diciamo che quei tentativi non avevano dato dei grandi risultati. Recentemente, a inizio di quest'anno, essendo mutate alcune condizioni, questo discorso è stato ripreso e, come saprete, perché è stato anche poi riportato anche dal Live, nella scorsa primavera è stato firmato un protocollo d'intesa, diciamo un accordo di collaborazione quadro, quindi non su specifiche iniziative o su specifiche attività, tra le due nazionali. Un accordo di collaborazione che vuole, come dice l'accordo stesso, ha come obiettivo quello di consentire di individuare soluzioni condivise atte a migliorare l'efficienza, efficacia e economicità dei servizi resi dalle due nazionali. E questo accordo ha fatto sì che successivamente siano stati creati una serie di tavoli tecnici che in questo momento sono al lavoro e che dovrebbero, si spera, concludere i loro lavori entro febbraio del prossimo anno. Abbiamo inizialmente enucleato alcune tematiche, chiaramente le tematiche potrebbero essere infinite, alcune tematiche ci sembravano di maggior urgenza da affrontare e quindi i tavoli attualmente attivi sono dedicati al tema del deposito legale, con particolare riferimento al trattamento dei materiali minori, alla gestione di quotidiani e periodici e in particolare di alcune categorie di queste, cioè le cronache locali per i giornali e ad esempio i fumetti per i periodici, alle politiche di scarto delle due nazionali, alla politica di acquisti in antiquariato, ma anche per colmare le lacune esistenti nelle collezioni moderne, e infine al tema delle licenze delle risorse digitali, oltre a un tavolo specificamente dedicato a rilanciare i due accordi di collaborazione già in essere. Tutti i temi su cui, di fatto, le due nazionali si trovano ormai da anni a affrontare le stesse problematiche e, purtroppo, a adottare le stesse soluzioni, senza che ci sia stato un minimo di tentativo di, come dire, ripartire fra i due lo sforzo. Banalmente, entrambe le biblioteche, ormai da moltissimi anni, non trattano più le cronache locali e quotidiane, con un danno non indifferente per la comunità degli utenti. Allora, forse sarebbe opportuno trovare una forma di, come dire, accordo che consenta, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, come sembra, con l'ultimo concorso a breve avremo finalmente un'immissione significativa di nuovi bibliotecari, sono 130 in tutta Italia, quindi si suppone che un certo numero arrivi ai due nazionali, poter riprendere queste attività, ma non come era in passato, duplicandole nei due istituti, ma coordinandole fra di loro. Chiudo con l'ultima citazione di Angela, anche questa dall'intervento tenuto in che avrebbe dovuto tenere, poi non partecipò, ma insomma mandò il testo scritto alla Nazionale Firenze nell'88, in cui Angela Vena esordisce dicendo: la mia appartenenza a un piccolo gruppo, dice, che ha avuto qualche perplessità ad accettare l'invito perché per la sua appartenenza a un piccolo gruppo di bibliotecari ormai in fase di estinzione. Molti dei problemi che vengono oggi sollevati sono stati oggetto di denunce, proclami, proposte da almeno 20 anni, senza che abbiano avuto alcun risultato. Era la fase, diciamo, pessimistica degli ultimi anni di Angela Minai. Ecco, anch'io appartengo a un piccolo gruppo di bibliotecari in via d'estinzione, spero solo professionale, ma comunque. E anch'io devo dire che a questo punto, non da oltre 20 anni, ma da oltre 40 anni, nel mio caso da quasi 40 anni, direi che quasi tutte le battaglie che sono state intraprese e che indirettamente o attraverso l'associazione o attraverso Giovannella, Anna Maria, Lalla, le mie tre, come dire, i miei tre fari di riferimento di quando ero un giovane bibliotecario, o non hanno avuto nessun risultato, o se lo hanno avuto in forma parziale, come appunto ad esempio la questione del deposito legale, che certamente è stata di gran lunga migliorata con la nuova legge, ma ha questo vulnus del vuoto legislativo sulle risorse digitali che ritengo di una estrema gravità. Ecco, allora, questo piccolo tentativo fatto nel mio ultimo anno di servizio con il collega Romano, che ringrazio perché da subito ha aderito pienamente a questa mia proposta e si è dimostrato poi fattivo nel dargli una concreta attuazione, spero che questo piccolo tentativo di arrivare a definire in qualche modo i nostri rapporti tra Roma e Firenze possa essere una piccolissima battaglia che almeno non debba aggiungersi all'elenco di quelle perse. Grazie. Grazie a Luca Bellingeri anche per averci portato all'attualità e purtroppo anche per aver ricordato che il percorso delle biblioteche è lastricato delle nostre sconfitte di cui tutti siamo stati più o meno partecipi. Però non c'è solo questo. Sentiamo Alberto Petrucciani come invece ci parla dell'Italia, delle biblioteche italiane. Bene, e naturalmente sono state dette tante cose, come è ovvio, già prima le cose che dirò non sono direi molto nuove, spero magari qualcuna, comunque cercherò naturalmente di stare rigorosamente entro i tempi, appunto molte cose sono state dette, alcune di queste sarebbe anche bello che ci fosse il tempo, ma non in questo momento, per discutere sia quelle che di carattere, diciamo, di ricostruzione della storia, no? Di come sono andati i fatti, che sono state esposte in un paio di interventi, sia quelli, per esempio, gli spunti di estremo interesse che ha portato ora appunto Luca Bellingeri su quello che si può fare di concreto. Però in queste cose bisogna innanzitutto avere chiaro che si va per ordine, cioè si fissano i concetti fondamentali, poi si arriva sì anche a esaminare i particolari, però purtroppo il mondo delle biblioteche è debolissimo attualmente, uno dei motivi per cui è debolissimo che non ha proprio presente le strategie, si disperde nelle cose più minute, sterili, autoreferenziali che interessano solo i bibliotecari, quindi la questione va proprio presa da un'altra parte. I nostri debiti di gratitudine con Angela Vinai, verso Angela Vinai, non sono pochi né piccoli, sono grandi e importanti e sono tuttora validissimi. Io mi limito a indicare quelli che fondamentalmente sono tre punti chiave, due e mezzo, ecco, così risparmiamo ancora un pochino, che mi sembrano assolutamente fondamentali. Il primo è questo. Il primo è questo, è stato già ricordato, e cioè portare le biblioteche al centro dell'attenzione con un progetto nazionale ambizioso, naturalmente un progetto di tipo politico, che possa interessare la gente, dalla politica alla stampa, e non esclusivamente i professionisti del settore, per l'attuazione del sistema bibliotecario nazionale. E in questo non sono d'accordo con l'amico Claudio, che andarsi a, come dire, incaponire intorno a questi termini servizio e sistema abbia senso, secondo me non lo ha proprio, nel senso che un mese prima di questa cosa qui, dove vedete c'è scritto sistema, un mese prima una legge dello Stato aveva istituito il servizio sanitario nazionale. E l'ottica è di quel livello lì, cioè è lì che bisogna posizionarsi. E naturalmente io sono nell'ultimo anno e mezzo sono un grande utente del Servizio Sanitario Nazionale, che è forse il secondo migliore servizio sanitario d'Europa, comunque sicuramente uno dei migliori. Per esempio ormai rispetto a quello inglese, cioè siamo anni luce sopra, non era così ai tempi dei tempi, ma... comunque sia, appunto, l'ottica a cui bisogna porsi è questo livello di ottica. Mi fa piacere appunto farvi vedere il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani, seduto lì, solo che hanno cambiato le sedie, ma seduto lì in prima fila e sorridente. Queste sono le cose a cui dovremmo lavorare, naturalmente. Furono presenti, come, non fu presente, però detto di missione una settimana dopo per essere riconfermato il capo del governo Andreotti, ma era presente Sandro Pertini, tennero relazioni il ministro Antoniozzi dei Beni Culturali, il sottosegretario, presente il ministro della Pubblica Istruzione, tennero due discorsi importanti, li vedete qui, Giovanni Spadolini a nome del Senato, Marino Rajčić a nome della Camera. Naturalmente sappiamo tutti benissimo, ecco, questo è un minimo di idea dell'impatto che può avere sulla stampa una cosa che abbia, che parli, diciamo, fuori dall'ambiente autoreferenziale tecnicistico dei bibliotecari. Naturalmente è chiaro che cercare di, come dire, di attirare l'interesse della politica e della stampa non è facile, con, diciamo, se consideriamo, come dire, le bestie con cui spesso abbiamo a che fare, no? Lasciatemelo dire, tanto nessuno mi può denunciare perché non si capisce a che bestie mi riferisco. So benissimo che no, certo non è facile, però diciamo nella vita bisogna sapere quello che vuoi, al di là che può essere difficile, perché se non lo sai non vai proprio da nessuna parte. Quindi punto uno è questo, appunto, portare al centro dell'attenzione un progetto nazionale che sia significativo per la gente, per i cittadini. Quale? Appunto una rete nazionale, punto due, fondamentale, che l'Italia avesse e abbia bisogno assoluto di una rete nazionale che copra tutti i tipi di biblioteche. Di un sistema nazionale, lo chiamiamo servizio, cioè un sistema deve fare dei servizi, no? Non è che il sistema esiste così perché tu lo guardi, è un sistema. È la stessa cosa, sono sinonimi sostanzialmente visti da dritto e da rovescio, quindi un sistema nazionale. L'Italia ha bisogno, per motivi che sono anche abbastanza ovvi, basta che andate a vedere i milioni di abitanti, le lingue, lo studio, l'interesse che c'è nel mondo a livello turistico, tutta una serie di cose, per cui l'Italia deve avere un grande sistema nazionale, una grande rete nazionale. In questo momento l'Italia è il paese che ha la rete bibliotecaria di gran lunga più estesa e più avanzata d'Europa, di gran lunga. C'è un'altra rete che ha più di 1000 biblioteche, forse, non credo ce ne si arrivi neanche a 2. Molti paesi non hanno nessuna rete nazionale. Se volete sapere, c'è un libro svizzero in Germania dove avete aperto una quantità di tempo inenarrabile. Non ci sono, questo poi ci ritorno, reti in Europa che raccolgano biblioteche di diverse tipologie. Anche questa è una cosa buffa, no? Perché come dire, la rete italiana è stata disegnata fin da subito. Oh, sto andando piano, o si è fermato l'orologio, sto andando piano. No, la rete italiana è stata disegnata fin dal principio con una straordinaria capacità innovativa, veramente incredibile quando si studia nei dettagli questa storia dei primi anni Ottanta, dei lavori che furono fatti dopo quella conferenza nazionale, come quel gruppo di persone, molte delle quali sono ancora qui con noi, e quel gruppo di persone che naturalmente non sapeva niente di informatica, perché non poteva saperlo, no? Non poteva sapere come sarebbe andato il mondo, perché nessuno poteva sapere come sarebbe andato il mondo, no? E quel gruppo di persone, forse sarà stata anche fortuna, chi lo sa, non credo, solo genio, magari ci vuole anche la fortuna, quel gruppo di persone riuscì a progettare una cosa straordinariamente innovativa, che è ancora più innovativa di molte delle altre in circolazione. Cioè nel 22, e quest'anno, c'è un comitato della Library of Congress che sta studiando come utilizzare per i record delle opere la stessa struttura dei record bibliografici, cioè di fare dei bid invece che dei vid, no? Perché i vid se fanno per le persone che non vanno bene per le opere. Però diciamo questo, i comitati SBN erano dove ci sono 82. La Library of Congress magari prima o poi sì, ci arriverà. Unimark non c'è ancora arrivato, Cioè, sono 10 anni che glielo diciamo, ma niente. Cioè, sono, come si dice, così, De legno. Il manifesto per le biblioteche pubbliche dell'UNESCO del 95, quindi un po' più di 12 anni dopo il progetto SBN, dice che la rete bibliotecaria pubblica deve essere progettata tenendo conto delle biblioteche nazionali, regionali, di ricerca e speciali, così come delle biblioteche scolastiche universitarie. Noi l'avevamo fatto un po' più di 10 anni prima, nessun altro paese europeo finora l'ha fatto. Questo a dimostrazione che c'è un ritardo spesso nel diffondere le idee molto forte, appunto particolarmente. Altrove, fra l'altro, è stato ricordato per esempio un altro evento molto importante che si lega, una cosa diciamo che tutti i bibliotecari italiani dovrebbero avere ben chiaro, è che l'Italia ha un paesaggio bibliotecario che è diverso da tutti gli altri d'Europa, anche a quello da quello della Germania, che ha qualche somiglianza di tipo storico, no? Perché è un paese la cui fusione, diciamo, nazionale, lo Stato nazionale è nato tardi. L'Italia ha un paesaggio bibliotecario, come lo chiamò Maria Gioia Tavoni, diverso da tutti gli altri, in cui per esempio appunto è stato ricordato il censimento delle Cinquecentine. Ecco, per darvi un altro piccolo dato, al censimento delle Cinquecentine tedesche hanno partecipato 260 biblioteche, bel lavoro, per carità, ma a quello italiano ne partecipano 1200, più di 1200, cioè 4-5 volte più grosso, 4-5 volte più difficile. Questo per darvi un'idea, come dire, delle cose con cui dobbiamo avere a che fare, quali devono essere i nostri orizzonti di riferimento. Per esempio, se procedo, non c'ho moltissimi altri sassolini, quindi resto nei... per esempio, ma naturalmente poi sarebbe bello, dato che tra l'altro molti di noi si conoscono da 30 anni, o giù di lì, sederci anche a un tavolino e parlarne a lungo. Io lavoro nelle biblioteche da più di 40 anni. Il mio primo lavoro è stato il censimento delle Cinquecentine. Cioè, ho convinto io la prima biblioteca in cui ho lavorato ad aderire, perché sapevo che esisteva. Me l'aveva forse detto Baldacchini, non mi ricordo. Comunque convinsi il direttore della biblioteca ad aderire, mi feci mandare i pacchettini di quelle belle schedine bianche, è stato il mio primo lavoro nell'82. Sì, la cosa che stavo appunto dicendo, questo del censimento delle Cinquecentine, una cosa fra l'altro, ho cercato di acquisire un po' di informazioni sulle reti bibliotecarie dei principali paesi d'Europa, purtroppo di solito non hanno delle buone pagine informative, non c'è paragone con le pagine che ha l'ICOM, ma proprio non c'è paragone. E mi sono accorto anche di una cosa buffa, che Wikipedia, che uso abitualmente, è un ottimo strumento, in questo caso non ne voglio parlare male, è un ottimo strumento, non ha la voce Library Networks, né al singolare né al plurale. Non sono riuscito a trovare nessuna voce in Wikipedia, c'è qualche voce singola, cioè il singolo ente, la singola rete può avere una voce. Non esiste una voce generale, quindi non è possibile rendersi conto, no, avere una fonte di riferimento. Esiste una voce sulle reti in India, esiste qualche voce su singole reti, poi forse magari Giovanni, perché a me ne sa molto più lunga di me, ma insomma ci ho provato, non l'ho trovato. Va bene, perciò appunto, per esempio, io trovo che quelle questioni del tipo ruolo dello Stato, ruolo delle regioni che sono state ricordate, sì, hanno avuto un posto nella storia, ma sono oggi completamente inutili e superate, nel senso che mi sembra chiaro, come dire, che il mondo delle biblioteche è costituito non dallo Stato e dalle regioni, come si pensava in un'ottica, non so, molto politicistica, è costituita biblioteche statali che sono disperse in vario modo, biblioteche statali che non sono pubbliche statali, ce n'è un'infinità, biblioteche regionali, provinciali, comunali, università, istituti culturali, istituti ecclesiastici, settore non profit, e che appunto il nostro paesaggio bibliotecario è tale che tutte queste cose sono indispensabili per avere un servizio forte, che contenga ciò che deve contenere e sia in grado di dare un buon servizio. Pensarlo ancora in termini appunto Stato-Regioni è proprio, a me mi sembra medioevo, non so come dire, no? Il mondo è proprio completamente cambiato. Perciò appunto, per concludere, quello che poi sostanzialmente sì, volevo dirvi era questo, appunto, noi dobbiamo ad Angela delle cose, e non solo a lei, naturalmente qui la vedete appunto, ma c'è Tommaso, c'è Lalla, c'è Corrado Pettinati, Beruginelli, Boissé, Crocetti. Dobbiamo delle cose importantissime, le più importanti forse che abbiamo, e si possono riassumere un po' appunto in questo, un'idea di fondo strategica, unica, forte, comunicabile, su cui cercare naturalmente di trovare energie, un servizio nazionale, una rete nazionale, che sia capace di abbracciare, raccogliere, mettere insieme tutti i tipi di biblioteche, le più grandi e le più piccole, quelle per i bambini piccoli e quelle per gli studiosi, premi Nobel, in tutti i settori, e quindi lavorare su, naturalmente, sulla cooperazione. Non è caso, no, che il primo articolo del primo numero, mi pare, di Notiziari, per appunto me l'ha fatto venire in mente, si chiama Cooperare e normalizzare. Grazie. Oh, grazie davvero ad Alberto, perché noi a volte abbiamo una percezione di noi stessi e delle biblioteche come la Cenerentola, il fanalino di coda, però non è così, o non sempre è così, e non sempre è stato così. Aver ricordato la capacità di visione strategica, di progettualità, ma anche l'impegno e l'attenzione che in alcuni momenti si è riuscito a orientare sulle biblioteche, è un dato importante, è un pezzo di questa storia, di questa stagione. Il titolo dell'intervento di Simonetta Buttò, direttrice dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico, è proprio riferito a questo, la stagione dell'ICCU, diciamo le stagioni dell'ICCU. Esatto, sì, a partire da lì, sì. Allora, va bene, innanzitutto grazie Giovanni, innanzitutto io vi... è a posto. Allora, innanzitutto mi fa molto piacere leggervi, sono solo due righe, il messaggio che mi ha mandato Erika Vinai, cioè la figlia di Gustavo Vinai, a cui Angela Vinai ha fatto da madre, mi ha mandato l'altro ieri, e mi ha detto: non potrò venire a Roma, mi dispiace molto, ma la prego di porgere i miei saluti. Ero con Angela, mia seconda madre, quando ho iniziato l'avventura del catalogo unico, e ne ero e ne sono molto fiera. Quindi, insomma, il mio dovere portarvi questo messaggio. Allora, io tento di... tante cose sono state dette, quindi forse mi viene anche più facile essere più veloce. Riparto da quanto diceva Giovanna Merola in conclusione del suo intervento, per mettere a fuoco, diciamo, i punti di partenza del futuro, per così dire. Allora, all'ICCU, come Istituto Centrale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Angela Vinai ci arrivava al 1 luglio del 1976, dopo una brevissima esperienza deludente ma significativa, iniziata il 5 luglio del 1973 alla direzione dell'Ufficio Esecutivo del Centro Nazionale per il Catalogo Unico, quello istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1951 con il senatore Ferrabbino. Esperienza durata solo 4 mesi. Angela Vinai, lo sappiamo, avrebbe voluto la direzione della Biblioteca Nazionale, dove aveva lavorato per 17 anni, aveva fatto da vice direttrice con Emidio Cerulli, ma in qualità di reggente, dato il pensionamento di Cerulli, poté solo consegnarla nelle mani di Luciana Mancusi. Dopo questa parentesi al Centro Nazionale per il Catalogo Unico, la Vinai fu destinata alla Biblioteca Alessandrina, dove rimase per quasi 3 anni, scusatemi, senza rinunciare, nonostante fossero quegli anni assolutamente infuocati, tanto più nell'ambiente studentesco dentro l'università, e senza rinunciare, dicevo, alle sue idee innovative per estendere i servizi al pubblico. Per esempio, si deve a lei l'apertura serale fino alle 23 in quella stagione della Biblioteca Alessandrina. con questo bagaglio, con queste idee, con queste esperienze, Angela Vinai il 1 luglio del 76, come dire, inizia dall'avvio alla stagione dell'IC, una stagione destinata a durare 10 anni. Come ha detto Giovanna prima, Angela Vinai lasciò coraggiosamente, anch'io uso lo stesso avverbio, da parte le procedure tradizionali e inconcludenti che aveva adottato il Centro Nazionale per la compilazione del primo catalogo unico delle biblioteche italiane, che era stato pubblicato, che in tutto vedrà la pubblicazione di 9 volumi, 7 della A e 2 della B fino a Barque. Quindi diciamo, era una procedura basata sulla fusione dei dati bibliografici provenienti da alcune biblioteche italiane. E, Angela Vinai si occupa di allontanare questo orizzonte, che era evidente che non gli interessava più, e di rilanciare sistematicamente invece i grandi temi della professione bibliotecaria: la catalogazione, le informazioni bibliografiche, lo studio e la catalogazione dei manoscritti, e lo studio e la catalogazione del libro antico, e in questo ha avviato la grande stagione di rinnovamento dei servizi nazionali. Angela Vinai è la fondatrice di SBN, ma la sua azione e soprattutto gli effetti di lunga durata della sua azione non può essere compresa se non teniamo conto del complesso degli interventi che costituiscono di fatto nel loro insieme l'intero Servizio Bibliotecario Nazionale, quella ricomposizione di cui diceva Claudio poco fa. Fu lei a lanciare nel 79 e poi ufficialmente nell'81 il Censimento Nazionale delle Edizioni del XVI secolo, coinvolgendo nell'impresa oltre 1000 biblioteche, e a spingere il settore del retrospettivo sulla strada della sprovincializzazione delle relazioni internazionali. Nell'idea della Vinai, il censimento doveva essere uno strumento ovviamente tradizionale, data l'epoca, da pubblicare a stampa, e infatti sotto questa forma ne uscirono 6 volumi, per gettare le basi di una bibliografia nazionale retrospettiva. Ma nel corso del tempo si è evoluto e si è arricchito nei decenni, acquistando caratteristiche di sempre maggiore flessibilità e interoperabilità, attraverso soluzioni tecnologiche che hanno consentito una maggiore integrazione, interazione con gli utenti, con gli operatori delle biblioteche e con altri progetti inerenti il libro antico presenti in rete, fino a trasformarsi in una vera e propria bibliografia che trae la sua ricchezza dal confronto con tutte le risorse disponibili, sia tradizionali che elettroniche. E accenno anche al fatto che è più recente, ma particolarmente significativo, il rilancio dei rapporti internazionali di Edit 16 per quanto riguarda la localizzazione delle 500 all'estero. Non solo, ad Angela Vinai dobbiamo anche il rilancio dello studio e della catalogazione dei manoscritti. Anche in questo caso tutto è cominciato nel 1980 con un seminario organizzato dall'ICCO qui a Roma, dal titolo Il manoscritto, situazione catalografica e proposta di una organizzazione della documentazione, in cui appunto si comincia a pensare a predisporre norme, a creare una scheda unificata, condivisa in ambito sia statale che regionale, e definire, diciamo, le linee guida del progetto. A questo seminario ne segue un altro, siamo nell'87, intitolato Documentare il manoscritto, con il quale si intendeva affrontare, dopo aver fatto la sperimentazione della guida alla catalogazione del manoscritto, che nel frattempo era uscita nell'84, l'effettiva raccolta e registrazione dei dati destinati ad essere, come si diceva allora, computerizzati. La banca dati aveva ed ha tuttora come obiettivo quello di realizzare il catalogo nazionale dei manoscritti delle biblioteche italiane con l'impiego di un unico applicativo a livello nazionale, gratuito, e pensato per far sì che le biblioteche che autonomamente implementano il database restino sempre proprietarie dei dati che l'ICCO ha il compito di gestire. Segnalo anche l'apertura graduale del sistema Manus Online ai progetti specialistici, anche internazionali, che interessano diverse istituzioni o gruppi di biblioteche. Sono progetti trasversali e sono accessibili a partire dalla interrogazione sotto il nome del progetto. In questo contesto allargato anche a tutti i temi a cui ha accennato prima Giovanna Merola e gli altri colleghi, in questo contesto allargato si deve iscrivere la nascita di SBN, avviato, come abbiamo visto, nel 79 dalla Conferenza Nazionale, dove Angela Vinai riuscì a coinvolgere lo Stato, gli enti locali e l'università nella costruzione di un sistema informativo, tecnologicamente avanzato e in grado di interagire anche a livello internazionale, confermando questo ruolo di coordinamento dell'Istituto in favore di tutte le biblioteche italiane. Dall'idea di cooperazione fra le diverse tipologie di biblioteche, Angela Vinai derivava l'ipotesi di un catalogo collettivo nazionale che consentisse il censimento e la localizzazione del patrimonio documentario conservato nelle biblioteche italiane. E di conseguenza, sono sue parole, una efficace ed efficiente circolazione dei documenti che faceva perno sulla disponibilità di informazioni attraverso un processo di catalogazione partecipata. Qui è servizio, non è sistema, ma non entro nel... è il servizio. Nell'aprile dell'80, quindi, Angela Vinai si fa promotrice della Commissione Nazionale per l'Automazione delle Biblioteche, con rappresentanti del Ministero, dell'ICCU, della Nazionale di Firenze, dell'Istituto Universitario Europeo e del CNR, al fine proprio di realizzare una moderna infrastruttura di servizi per l'accesso ai documenti attraverso la riduzione delle attività manuali più ripetitive. La visione politica o dialettica, se la vogliamo dire così, come diceva anche prima Claudio, sottesa all'avvio del progetto, era quella di reagire al rischio di una parcellizzazione dei servizi svolti da numerosi istituti bibliotecari affidati alle regioni dal decentramento del 72 e al pericolo di vedere inibiti progetti di respiro nazionale. E lo fece imboccando la strada della cooperazione, coinvolgendo tutte le biblioteche italiane indipendentemente dalla loro appartenenza amministrativa. Ecco quindi lo strumento organizzativo, l'uso del protocollo d'intesa del 1984, Gullotti, Maier per capirsi, e d'altra parte il fondamento pratico invece della cooperazione nella quale, cito da Angela Vinai, ciascuno mette a disposizione di tutti risorse umane, mezzi tecnici, esperienza, know-how per una migliore resa dei propri e degli altrui servizi. Dunque, fondata su una complessa visione strategica a garanzia dello sviluppo di servizi di uguale livello su tutto il territorio nazionale. La catalogazione partecipata, dunque, mettere insieme i risultati del proprio lavoro è stato ed è anche oggi lo strumento che ha consentito censimento e localizzazione del patrimonio documentario conservato nelle biblioteche. Le soluzioni individuali non sono soluzioni, diceva Angela Vinai. Da allora e per quasi 40 anni SBN ha mantenuto la sua architettura, ma ha saputo modificarsi e adattarsi al mutare dei tempi ed è stato ed è ancora sempre in crescita. L'ultima di questa fase di mutazione è stata avviata a partire dal 2015 con la prima Assemblea Generale dei Poli, SBN, che forse ricorderete, con la collaborazione dei nostri partner istituzionali, regioni, enti locali, università e colleghi che lavorano nelle biblioteche, che hanno scelto e accettato di partecipare a gruppi di lavoro sui grandi temi che necessitavano una visione strategica aperta, sostenibile ma di ampio respiro per il futuro dell'informazione e dell'accesso al patrimonio bibliografico, esattamente come si parlava di SBN. E quindi gruppi di studio sull'evoluzione e sviluppo di SBN, gruppi di studio sulle infrastrutture per il patrimonio bibliografico e digitale, sulle linee d'azione per la definizione delle politiche e tutti insieme si intrecciavano e si completavano a vicenda in un progetto unitario di rilancio di SBN. A questo si aggiunge anche nel 2016 un gruppo di lavoro interistituzionale di cui molti di noi hanno fatto parte, con la presidente dell'AIB, con i direttori di Roma e Firenze, ovviamente con buona parte delle persone che hanno collaborato alla crescita di SBN, e questa nuova visione strategica racchiusa in un documento è stata recepita, presentata e recepita al Consiglio Superiore dei Beni Culturali del 9 ottobre del 2017. A partire dall'assunto che le dimensioni, la natura intrinsecamente interistituzionale, l'enorme numero di utenti connotano SBN come l'ambito appropriato per la formulazione e il dispiegamento di politiche nazionali di settore, quello che mancava e quello che vogliamo ottenere, anche il documento finale del gruppo di lavoro ha auspicato una decisa evoluzione di SBN che sempre più deve presentarsi ai fruitori come l'Organizzazione Bibliotecaria Nazionale, intesa come un complesso integrato di servizi e di policy caratterizzato da un'architettura di sistema territoriale multiscala e da un nuovo modello di management. Così reinterpretato, SBN può diventare un asset importante del catalogo del patrimonio nazionale e dei relativi servizi, unitamente al sistema archivistico nazionale, al sistema museale nazionale, dando vita a un sistema nazionale del patrimonio coerente col policentrismo culturale, diceva prima Alberto, e dal punto di vista locale a un sistema culturale integrato. Questo è l'elaborato finale che è uscito da questo gruppo di lavoro voluto dalla Direzione Generale delle Biblioteche. Da lì questo abbiamo tentato di fare. E tutto questo pensiero e tutta questa visione è la conseguenza diretta della visione complessiva, della lungimiranza, della lucidità, diceva anche Luca prima, che dei servizi bibliotecari nazionali aveva Angela Vinay, e che quindi sta alla base del nostro rinnovamento più recente, cioè della creazione di questo sistema di ricerca integrato, di cui il portale Alfabetica è il punto di accesso, che ha l'obiettivo di rendere immediatamente e contemporaneamente consultabili i dati del patrimonio culturale conservato in tutte le biblioteche italiane, e che è descritto attraverso i sistemi informativi nazionali realizzati in quasi 40 anni oramai di lavoro cooperativo. E quindi il catalogo collettivo di SBN con il suo indice, i sistemi specialistici per il libro italiano del 500, il portale Edit 16, per il database dei manoscritti antichi e moderni, il nostro Manus Online, e la biblioteca digitale di Internet Culturale. Tutti questi sistemi informativi sono stati rinnovati completamente e integrati fra di loro per migliorare da una parte il servizio informativo che ciascuno di essi offre al loro pubblico, ma allo stesso tempo per consentirci di sviluppare un servizio nuovo che abbiamo definito catalogo generale. Il nuovo catalogo generale è dunque una base dati che si forma sul catalogo collettivo di SBN, ma viene arricchita dai dati che provengono dai dati e dalle risorse digitali che provengono dagli altri sistemi nazionali. Avendo alle spalle questo complesso di servizi, non ci dobbiamo neanche meravigliare che i primi progetti presentati per il PNRR nel subinvestimento che riguarda noi, cioè digitalizzazione del patrimonio culturale, lo Stream 5 cosiddetto, siano prodotti proprio dalle biblioteche. Perché il futuro non può essere un'astrazione, il futuro è semplicemente il passo successivo che precede il prossimo passo. Si lavora sul costruito e noi si costruisce sul costruito, per fare un'allitterazione. E quindi il progetto romano della microfilmatura delle 100.000 bobine di microfilm e di manoscritti antichi e moderni, soprattutto antichi, la digitalizzazione a tappeto dei quotidiani dall'Unità 1950, coordinato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, produrranno nuove risorse, e tutte queste risorse saranno messe a disposizione per mezzo dei servizi bibliografici nazionali, che noi abbiamo in questa maniera organizzato come un ecosistema e che abbiamo diciamo creato in questi anni, cioè preparato in questi anni indipendentemente dal PNRR, lavorando sulle nostre risorse ordinarie, che non sono poche, ma le abbiamo utilizzate in questa maniera. E sempre nell'ambito del subinvestimento che ci interessa del PNRR, verranno avviati anche altri progetti volti alla digitalizzazione di una vasta gamma di tipologie di oggetti del patrimonio culturale italiano: opere d'arte, reperti archeologici, archivi fotografici delle soprintendenze dei musei, materiali sonori e audiovisivi, che prevede entro la fine del 2025 65 milioni di nuove risorse digitali. È il nostro target europeo questo. Tutto questo insieme di risorse nuove saranno visibili nei sistemi verticali che ciascun dominio disciplinare dovrà a breve lanciare e che poi saranno tutti insieme pubblicati e resi accessibili dalla Digital Library Nazionale che realizzerà l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio. L'ecosistema dei servizi bibliografici nazionali però è già pronto ad accogliere qualunque nuova risorsa e costituisce concretamente oggi, per tutti gli altri settori dei beni culturali, un modello di riferimento al quale ispirarsi, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista tecnologico, adattandolo naturalmente ciascuno alle proprie specificità. Con l'ICAR, con l'ICCD, con l'Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi, abbiamo lavorato a questo in questi anni insieme e di comune accordo, condividendo i criteri di fondo. E dunque abbiamo lavorato in un'economia di scala, una forma di partecipazione. E quindi concludo dicendo che proprio grazie alla visione ampia dei servizi bibliografici nazionali che ebbe a suo tempo Angela Vinai, noi oggi possiamo contare concretamente, fattivamente, sia sulla capacità di accoglienza delle nuove risorse digitali da parte delle nostre infrastrutture, che sulle competenze sviluppate e maturate nel corso del tempo all'interno del dominio bibliografico, proprio nell'ottica di costruire modelli concettuali, sistemi integrati utili alla realizzazione di piattaforme sempre più ampie, in questo caso utili come pilastro di quella piattaforma in cloud che sarà fra qualche anno la Digital Library del Ministero della Cultura, che è una piattaforma pensata in grande ma basata su esperienze di dominio solide e consolidate, esattamente come il nostro catalogo generale fondato sui dati dell'indice SBN arricchiti. Grazie. Quindi una storia lunga, ricca, che continua, in cui dobbiamo avere fiducia. Io ringrazio Giovanna Merola, Claudio Lombroni, Luca Bellingeri, Alberto Petrucciani e Simonetta Buttò per questi loro contributi che hanno aiutato a ricostruire un po', a descrivere un po' quella che è stata l'attività, il lavoro di Angela Vinai e i risultati che questo ha prodotto. E prima di ascoltare le considerazioni finali di Rosa Maiello, adesso abbiamo due interventi. Abbiamo detto che c'è stata, diciamo, una delle caratteristiche, diciamo, del metodo di lavoro di Angela Vinai era la condivisione, era il creare una comunità attorno ai progetti, utilizzare le energie di cui si poteva disporre. Ecco, una di queste persone che ha vissuto questa stagione è Tommaso Giordano, giovane bibliotecario di Belle Speranze all'epoca, adesso un po' meno giovane, ma comunque un protagonista di questa stagione, e adesso ci porta la sua testimonianza. Vieni Tommaso. Grazie. Comincio col portarvi saluto di due altri reduci di quel gruppo, che sono Corrado Pettenati, che avete visto col cappellino e con la barba lì nella fotografia, ma non con il pigiamino giallo del pigiama party che facemmo alla Fabrique, poi è di Susanna Peruginelli, la impeccabile Susanna, che ha scritto tutti i verbali di quella riunione, una cosa incredibile, non sarebbe rimasto niente se avessero affidato a me una cosa del genere. Invece Susanna era precisissima nelle cose, scriveva chi aveva detto questo e chi aveva detto quest'altro. Meno male quei verbali, non so chi li ha conservati, non si vede tutto. Comunque, vabbè, io dopo gli interventi che ci sono stati qui, nonostante sia arrugginito perché ormai sono fuori dalla professione da 7 anni, e mi è venuto voglia, cioè, erano molto stimolanti, ho trovato degli stimoli, mi piacerebbe parlarne, però è meglio di no, e quindi rimango all'intervento che ho scritto, cercando di restare nei 15 minuti che Giovanni mi ha dato. Allora, ho dato un titolo a questo intervento, Momenti fatali. Il grande scrittore austriaco Stefan Zweig definiva momenti fatali quel brevissimo lasso di tempo in cui la bilancia della storia è come sospesa in un equilibrio e sembra che basti un capello per farla pendere in un senso o nell'altro. Zweig non si riferiva solo ai grandi eventi della storia, anche nelle vite più ordinarie di ciascuno di noi, facendo le dovute proporzioni, ci possono essere dei momenti simili. Una data, un'ora, un minuto in cui una decisione è destinata a trascendere la contingenza e a dare una svolta alle nostre vite o addirittura a influire sul percorso della storia, nel nostro caso sulla storia più recente delle biblioteche. Questo mio intervento trae spunto da due di questi momenti di cui sono stato testimone e che vedono protagonista Angela Vinai e hanno come sfondo i congressi dell'AIBA, Presidente. Questo è in omaggio alla nostra Presidente dell'AIBA. È il caso qui di ricordare ai più giovani che 40-50 anni fa, cioè mezzo secolo fa, quando i canali di comunicazione professionali erano estremamente carenti e pressoché assenti le strutture di formazione, i congressi AIBA costituivano per i bibliotecari più impegnati un'occasione irripetibile di incontro e di aggiornamento. Erano il luogo dove si scambiavano esperienze, dove si poteva entrare in contatto con i maestri della professione bibliotecaria, in genere persone cortesi disponibili verso i colleghi più giovani. Alassio, 5-10 maggio 1975, si apre il congresso dell'AIB sullo sfondo della splendida primavera della Riviera Ligure. È l'anno del rinnovo delle cariche sociali. Allora le elezioni si svolgevano durante il convegno e potevano votare solo i partecipanti. Ci si aspettava dunque una partecipazione più numerosa degli altri anni. Ma il fatto che colpisce subito i veterani dell'associazione è la presenza di numerose facce nuove nella sala del congresso. Giovani donne e uomini provenienti da tutta Italia. Sono la generazione del 68 che sta entrando prepotentemente in tutti i settori del mondo del lavoro, dai comparti produttivi alle pubbliche amministrazioni. Nel paese c'è un grande fermento politico, la società italiana è in piena evoluzione, il periodo delle lotte per i diritti sociali e civili, ricordo il referendum sull'aborto del 74, e di lì a poco, nel giugno del 75, si sarebbero svolte le elezioni amministrative in 15 regioni, che avrebbero sancito la grande avanzata del Partito Comunista. 5 anni prima, nel 70, come avete già sentito, io ripeto anche cose che hanno detto gli altri, ma non posso tornare indietro ormai, la legge istitutiva delle regioni aveva aperto un nuovo capitolo nella storia politica e amministrativa del Paese. E proprio in quegli anni che si registrano forti tensioni tra le amministrazioni locali e lo Stato centrale, restia ad attuare il decentramento previsto dalla legge che assegnava alle regioni ampie competenze in molti settori, tra cui la cultura, dunque le biblioteche pubbliche e gli archivi di interesse locale. Alcune regioni si preparavano a promuovere leggi sulle biblioteche e impegnavano sempre maggiori risorse in tale ambito. In quel periodo l'assunzione di personale nelle biblioteche di pubblica lettura, come si usava dire allora, raggiunse livelli mai visti prima e in quello stesso anno veniva istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, foriero di grandi aspettative, che obbligava l'AIB a confrontarsi su questioni di vasta portata, dense di conseguenze per il futuro dei servizi bibliotecari. Tutto questo avveniva mentre in Italia le strutture di formazione dei bibliotecari erano pressoché inesistenti. La formazione avveniva on the job e l'aggiornamento era lasciato alla buona volontà dei singoli. In questo contesto l'AIB, che fino a qualche anno prima era un'associazione di pochi appassionati, veniva chiamata ad assumere un ruolo centrale rispetto alla domanda di aggiornamento degli operatori delle biblioteche e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari. Inevitabilmente la domanda di partecipazione e rinnovamento che si sviluppava in tutti i campi della vita sociale e civile non poteva risparmiare la vecchia AIB. Come faccio a bere qua? Devo bere un po' d'acqua. Allora, fu a Lazio che incontrai per la prima volta Angela Vinai. Ricordo che intervenne nel dibattito dalla platea e fui subito impressionato dalla sua personalità carismatica, autorevole, di grande spessore intellettuale. Già dalle prime battute del congresso emerse lo scontro tra un gruppo di bibliotecari più aperto alla domanda di partecipazione e la maggioranza più conservatrice. Vorrei precisare che non si trattava di reazionari. La dirigenza dell'AIB di allora era formata da persone illuminate e progressiste, di notevole caratura intellettuale e professionale, come Paggetti, De Gregori, Guarino. La questione più controversa riguardava l'apertura dell'associazione a tutti gli operatori delle biblioteche, mentre allora era ristretta solo al personale che aveva la qualifica di bibliotecario o di aiuto bibliotecario. Da una parte si riteneva che una maggiore apertura dell'AIB avrebbe nuociuto alla reputazione di una professione già poco riconosciuta, dall'altra si sosteneva che accogliendo nell'AIB tutti gli operatori delle biblioteche, indipendentemente dalle qualifiche, avrebbe dato all'associazione maggiore potere contrattuale per affrontare le sfide che si profilavano all'orizzonte. Questa spaccatura portò alla formazione di due liste contrapposte per le elezioni alle cariche sociali. Angela Vinai, che aveva fino all'ultimo cercato un compromesso fra le due posizioni, alla fine decise di candidarsi nella lista degli innovatori. Quando la sera prima delle elezioni, e non era scontata la vittoria, tant'è vero che chi conosce la storia dell'AIB sa che lo statuto, il rinnovo dello statuto proposto alla Vinai, dovette passare 3 congressi, fu bocciato in 2 congressi, al terzo fu approvato. Quindi, alla fine, candidazione rinnovata. Quando la sera prima delle elezioni, Franco Balboni, infaticabile animatore di quel congresso, ci portò la notizia nella saletta dove eravamo riuniti, ci fu un'esplosione di entusiasmo. Era chiaro che l'AIB si preparava ad una svolta. E svolta ci fu. Per Angela fu una scelta travagliata, ma dopo aver conosciuto la sua personalità, i suoi valori di riferimento, il suo rigore, capì che per lei una scelta diversa voleva dire venir meno alle sue responsabilità. Guido e Rino Pensato, nel loro sincero e commovente contributo alla miscellanea dedicata a Angela Vinai, quella che ha indicato Solimine prima, accennano agli incontri fatali che avvenivano nell'estate del congresso tra noi giovani alle prime armi e personalità della levatura di Angela Vinai e Franco Balboni, che non disdegnavano il dialogo anche di fronte alle nostre ingenuità e intemperanze. E lo fecero, cito i fratelli Pensato, svelando con la pratica quotidiana, personale e istituzionale, a neofiti, scettici e disillusi, che solo uno stretto, inscindibile legame tra un'ampiamente condivisa idea della missione civile, in questo senso politico, della biblioteca, e una forte e generalizzata qualificazione professionale avrebbe consentito ai bibliotecari italiani trasformare i loro istituti da luoghi inerti e misconosciuti in strutture moderne a servizio degli utenti e della modernizzazione del paese. Sangineto, Cosenza, 4-7 giugno 1978. Si celebra il 28° congresso dell'AIBE. Da 3 anni Angela è presidente dell'associazione e da 1 anno e mezzo ha assunto la direzione dell'ICCO. La sua leadership in campo bibliotecario si è consolidata ed è ormai un punto di riferimento nazionale sia sul piano professionale che istituzionale. È l'anno del rinnovo delle cariche sociali, di nuovo. Ma Angela, da quando è diventata direttrice dell'ICCO, va maturando un'idea che coltiva da tempo. Negli ultimi 3 anni il quadro sta maturando rapidamente. Le iniziative da parte delle regioni si moltiplicano, prolificano i progetti di automazione, spesso velleitari e improvvisati, nelle università e negli enti locali. Angela è consapevole che si sta giocando una partita decisiva per il futuro delle biblioteche. Occorre agire in tempi brevi per evitare un'ulteriore frammentazione e dispersione delle risorse e per ricondurre le iniziative in un quadro di coerente collaborazione. In Toscana, per iniziativa del neonato Istituto Universitario Europeo, un gruppo di biblioteche di enti diversi, inclusa la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sostenuto dalla Regione e dall'Università di Firenze, si prepara a lanciare un progetto di cooperazione automatizzata su scala regionale. Animatore del progetto è Michel Boisset, un bibliotecario francese, vice direttore della Biblioteca dell'UE. Michel, che ha una lunga esperienza nel campo dell'automazione, sta realizzando con la sua equipe informatica, guidata da un ingegnere, Corrado Pettenati, quindi non è vero che non capivamo niente di automazione, attenzione, Maltese a me mi ha considerato informatico fino a pochi anni fa, quindi cioè, voglio dire, quindi qualche cosa ne capivamo. In Toscana, per iniziativa di Corrado Pettenati, un sistema per la biblioteca dell'UE, ma il suo sogno è ben altro. Convinto fermamente che l'automazione può significare un vero salto di qualità nella misura in cui è impiegata per mettere le biblioteche in condizione di condividere le loro risorse, ha in mente di organizzare un consorzio integrato di biblioteche in Toscana. Qualche tempo prima del congresso di Sangineto appare sull'Unità, ora non ricordo esattamente la data, e se è lo stesso quello che dice che ha citato Leombroni, appare un articolo sull'Unità di Angela Vinai, nel quale, partendo dalla constatazione che le biblioteche per essere efficaci devono mettere insieme le loro risorse, prefigura lo sviluppo dei servizi bibliotecari nazionali nel quadro di una cooperazione su larga scala, dove ciascuna biblioteca mantiene la propria autonomia. Io traduco l'articolo e lo mostro a Michel, che ne rimane entusiasta. Tutto coincide con la sua visione. Vuole che io lo introduca alla Vinai appena possibile. Telefona ad Angela per chiedere un incontro. Non c'è tempo prima del congresso. L'appuntamento è a Sangineto. Michel giunge a Sangineto la sera del 5 maggio. Aveva preso un volo da Pisa alla Lamezia Terme. Dopo l'incontro è fissato per il giorno dopo alle 10, alle 8. Dopo i primi convenevoli, non mi ci vuole molto per capire che i due si intendono alla perfezione. È qualcosa che va oltre l'ambito professionale, una coincidenza di valori condivisi, un comune sentire. Michel ascoltava Angela attento, visibilmente affascinato. Poi, quando Michel cominciò a parlare e ad accennare alle opportunità che la telematica poteva concretamente offrire alla cooperazione in rete, Angela seguiva compostamente, come sempre, ma notai che i suoi occhi brillavano, come se avesse scoperto qualcosa o le fosse spuntata un'idea che inseguiva da tempo. La scintilla era scoccata. L'incontro si concluse in poco più di un'ora, con l'impegno di rivedersi al più presto. Quando Michel era già sul taxi diretto all'aeroporto, Angela mi disse una frase che non ho più dimenticato: questo incontro è il risultato più importante del nostro congresso. L'incontro tra Angela e Michel è stata una congiunzione straordinaria tra due persone fuori dell'ordinario. Per alcuni aspetti affini, per molti altri diversissimi. Negli anni mi è apparsa sempre più evidente la loro complementarietà. Sono convinto che Angela aveva un'idea e sapeva dove voleva arrivare, conosceva il contesto ed era in grado di trovare il percorso, ma non sapeva quale era il mezzo più adatto per raggiungere l'obiettivo. Anche Michel sapeva dove voleva arrivare, conosceva il mezzo, ma non conosceva il contesto e non riusciva a individuare il percorso. Mi riesce difficile immaginare che un progetto come SBN potesse essere realizzato senza il talento tecnologico di Michel e la visione strategica e politica di Angela. Rara congiunzione di esprit de géométrie e esprit de finesse, di cui una volta tanto nella loro storia le biblioteche italiane hanno beneficiato. Mi sono chiesto spesso in tutto questo tempo e ancora in questi giorni quale fosse l'elemento trascinante di Angela, come fosse riuscita a trovare tanto seguito, non solo tra i bibliotecari, ma tra i numerosi amministratori, informatici, accademici, politici, di qualsiasi colore dal nord al sud dell'Italia. Non posso dire di aver trovato la risposta. Ma sono convinto che un elemento fondamentale del suo carisma derivava, è una cosa che è stata anche qui messa in rilievo da altri, dalla sua concezione alta della missione della biblioteca e del bibliotecario, anzi, per essere più precisi, della missione del funzionario pubblico, inteso nel senso anglosassone di civil servant, cioè di agente al servizio del cittadino e della società democratica. Gli scritti, pochi per la verità rispetto alla sua opera, che Angela ci ha lasciato, rappresentano solo una traccia del suo straordinario impegno. Angela era una bibliotecaria d'azione, non aveva ambizioni accademiche, i suoi scritti erano quasi sempre funzionali al suo lavoro. La sua azione formativa era espressa nell'esercizio concreto della professione, nella pratica del lavoro quotidiano, nei rapporti con i suoi collaboratori e interlocutori. Una delle doti di Angela che più ammiravo era la sua apertura al nuovo e la capacità di ascolto e di dialogo senza pregiudizi, anche quando la sua visione era distante da quella dell'interlocutore, la sua abilità di confrontarsi e collaborare ai diversi livelli. Senza queste qualità, più che rare nella pubblica amministrazione di ieri come di oggi, non avrebbe potuto concepire e portare avanti un progetto complesso e ambizioso come SBN. La storia del progetto SBN non è fatta solo di tecnologia, di abilità manageriali e visione politico-culturale. È anche una storia di amicizia, di rapporti di amicizia, che andavano oltre il gruppetto storico che avete visto lì nelle fotografie e che includevano sempre nuovi valorosi colleghi come Cristina, Igino, Ornella e tanti altri. Alle riunioni seguivano inevitabilmente piacevoli momenti conviviali a cui Angela, quanto poteva, partecipava volentieri. Ed erano in quelle pause di relax che si parlava di tutto. Con Angela era molto bello parlare, dirà Luigi Crocetti a proposito di quei momenti. Gli occhi ti fissavano dietro le lenti con gravità o leggerezza. Questa accompagnata dal sorriso, mai facili, mai condiscendenti. Neanche a cena, e di cena, dice Crocetti, con lei ce ne sono state tante, anche alla Fabrique, un posto vicino a Lione, la Fabrique era la casa di Michel, dove avete visto, dove erano state scattate le foto. Ma Crocetti secondo me si sbagliava, perché Angela, è vero, non era tanto condiscendente, ma soprattutto con gli uomini della sua età, i suoi coetanei, con noi era estremamente indulgente, questo possiamo dire tutti. Si era creato nel nostro sodalizio un clima familiare, si gioiva e si soffriva insieme. Come nelle migliori famiglie. Purtroppo succede ai vecchi, spesso si discuteva tanto, spesso animatamente, era il modo di operare dialettico del gruppo SBN. Rievocando quei momenti, il mio pensiero va alla Lalla Soggio, la cara indimenticabile Lalla che animava le nostre riunioni con le sue osservazioni critiche e stimolanti, il suo humor, le sue sonore risate. A volte ricordavamo divertiti il nostro primo incontro ad Alassio, suggellato da una sonora litigata, ma subito scoprimmo le affinità, i comuni ideali, passioni e aspirazioni. Gli anni del nostro impegno nell'AIB, poi nel progetto SBN, videro la reciproca stima e simpatia evolvere in una solida, sincera e fraterna amicizia, rimasta inalterata fino a quando Lalla ci ha lasciato. Oggi, rivolgendo lo sguardo al passato, mi rendo conto che sono stato un bibliotecario fortunato, perché in gioventù ho avuto la ventura di collaborare con maestri e colleghi straordinari che mi hanno aiutato a crescere sia sul piano professionale che umano. Ad Angela devo molto, soprattutto l'essere riuscita a dare un senso etico e politico al mio impegno professionale. A lei va oggi la mia profonda e affettuosa gratitudine. Grazie. Vabbè, non ci sono commenti da fare. Nella parte finale del suo intervento Tommaso ha ricordato che Lalla Soggio era una dei protagonisti, diciamo, di quel gruppo. E appunto, come ha detto, Lalla ci ha lasciato poco fa, il 19 febbraio di quest'anno, e a Mother Crest è stato affidato il compito di ricordarla. Bene, come potete immaginare, questo compito mi ha coinvolto emotivamente, però devo dire che grazie anche all'eredità di Lalla mi ha coinvolto anche da un punto di vista cognitivo e di riflessione e politico valoriale. E per cui sì, sono emozionata anche come Tommaso che ho conosciuto allora, appunto. Ecco. E, però allo stesso tempo mi sento a casa, cioè questa è casa mia. Ed è casa mia perché Lalla, che io conoscevo da prima degli anni, dal 68-69, perché lei dirigeva la Biblioteca Universitaria di Sassari e io vivevo a Sassari e quindi siamo diventate amiche, perché tra l'altro i nostri mariti erano amici e così, vabbè. Quando io sono venuta a Roma e sono entrata nella Treccani e mi è stata data l'incarico di ristrutturare, rilanciare, valorizzare la biblioteca della Treccani, io conoscevo le biblioteche perché ci studiavo, ci andavo a studiare e basta. Quindi, ma Lalla non mi ha permesso neanche per un secondo di pensare che io potessi occuparmi di una biblioteca senza saperne niente. Quindi col suo fare, come dire, direttivo, mi ha subito fatto iscrivere alla scuola speciale per archivisti bibliotecari, all'AIB, e poi contornato delle sue amicizie che erano allora appunto Giovannella, Tommaso e tutti, e Anna Maria Mandillo, e i bibliotecari che appunto più volte sono tornate oggi negli interventi di chi mi ha preceduto. E questo gruppo, diciamo, ha costituito la mia introduzione al mondo delle biblioteche. Quindi potete immaginare che ha avuto un grande ingresso nel mondo delle biblioteche. E di questo gruppo ovviamente ha mediato il mio rapporto con la Vinai, quasi immediatamente. Perché? Perché occupandomi della biblioteca dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che era ed è oltretutto, oltre che una casa editrice, una grande istituzione culturale, io ho avuto subito rapporti con gli altri istituti culturali e in particolare con Lucia Zannino della Fondazione Basso e con Flavio Nardelli dell'Istituto Sturzo. E grazie al fatto che vivevamo in maniera molto vicina il progetto di SBN, fin da quelle fotografie che sono state viste, e abbiamo capito, abbiamo intuito da questa costruzione che allora era, direi, avveniristica, un felice incontro, come diceva Tommaso, di competenze tecnologiche e di visione e di valori. Abbiamo intuito che quello poteva essere il mezzo per far uscire le biblioteche degli istituti culturali dalla, diciamo, subalternità totale in cui si trovavano, subalternità che non meritavano, perché tra l'altro avevano un patrimonio che non era ovviamente di numeri, non era di chilometri di scaffalatura, ma era, come dire, carne e sangue degli istituti, della vita delle istituzioni culturali, e quindi rappresentavano un'espressione diretta della vita di questi istituti, dei loro rapporti scientifici, dell'elaborazione. E l'SBN, e qui io vi porto una visione che è sì dall'interno, ma è anche complementare, cioè vista non dalla statalità, ma dagli istituti culturali che sono un privato, seppur un privato sociale, un privato economico. E Noi abbiamo vissuto l'istituto, l'SBN, la costruzione dell'SBN, che poi ha portato alla costituzione del primo polo romano SBN, che era il polo degli istituti culturali. E abbiamo vissuto l'SBN proprio come un mezzo di emancipazione, di acquisizione di competenze, di identità e di strategie, cioè che cosa ci si poteva fare con una biblioteca. Abbiamo acquisito anche autorità nei confronti dei nostri presidenti, direttori, accademici, tutti accademici. Quindi e abbiamo visto in quel momento tutte le biblioteche con quel policentrismo di cui parlava prima Alberto Petrucciani, e quindi le biblioteche speciali. Io per esempio ho fatto parte per anni della della commissione dell'AIB delle biblioteche speciali, che hanno trovato appunto in quel periodo l'incontro con gli altri bibliotecari, quelli delle grandi biblioteche dello Stato. Questo scambio è stato anche in qualche modo reciproco, perché i bibliotecari delle grandi biblioteche pubbliche statali hanno conosciuto altre biblioteche, hanno conosciuto sia i contenuti sia le potenzialità, al di là dei milioni o delle centinaia di migliaia di volumi che potevano avere le biblioteche, e che in qualche modo noi vivevamo sempre come in qualche modo come un criterio prevalente. Cioè noi biblioteche che non avevamo le numeri dei volumi, per quanto fossero abbastanza robuste, ma non, certamente niente in confronto alle nazionali, alle statali. Quindi è stato, guardate, l'SBN, oltre che una grandissima conquista, e quello appunto di cui parlavo, seguivo l'intervento di Alberto Petrucciani, che mi ha trovato assolutamente d'accordo. Noi forse vediamo più dei bibliotecari stessi che cosa è stato l'SBN, che è stata una, diciamo, un incontro, un uscire dalle proprie mura, perché l'SBN è stata la concretizzazione del fatto che le tecnologie della comunicazione passavano le mura, passavano i confini, e noi l'abbiamo messo in pratica e imparato con SBN. Ecco, quindi, e in tutto questo ovviamente Lalla era protagonista, non era qualcuna che seguiva, ma era una protagonista, e lo era da civil servant, come diceva prima Tommaso. Cioè, io anche ho imparato da quel gruppo di persone, da quel gruppo di bibliotecari e della Vinai, che cosa significa essere servitori dello Stato. Perché io, che venivo dalla Sardegna, sempre vediamo le cose da altri punti di vista, io porto altri punti di vista e altre esperienze. Io che venivo dalla Sardegna, le istituzioni non so manco cosa fossero. Ecco, proviamo. Cioè, ed ero laureata in filosofia, quindi voglio dire, non è che fosse, però le istituzioni facevano parte del nostro panorama, né quelle locali e tampoco quelle nazionali. Quindi proprio, e mi sono trovata all'improvviso con questo impatto fortissimo con i servitori dello Stato, e ne ho conosciuto la dedizione, la competenza, la visione. Certamente non erano è stato un incontro fortunato, perché sicuramente non erano nella media, diciamo, probabilmente non erano nella media, però c'erano, caspita se c'erano, e vivevano la professione del bibliotecario non come uno strumento di carriera, o di, che pure non, voglio dire, io non ho niente contro l'ambizione, perché comunque, purché governata ovviamente, ma non era, anche nelle discussioni, anche nei conflitti, come per esempio ho vissuto durante tutto il periodo di SBN, per esempio le grandi discussioni fra rappresentanti delle regioni, le grandi culture regionali che io ho conosciuto allora, cioè la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, e io che stavo a Roma avevo come in qualche modo interlocutore la regione Lazio. Quindi potete capire che anche lì ho imparato che cosa sono le regioni in Italia e che differenze ci sono, perché quando io ascoltavo i rappresentanti delle regioni, c'era Fuglieni, per dire, c'era la Rosaria Campioni, sentivo una cultura regionale forte, robusta, che era alla pari quando interloquiva con il... il centro, con il catalogo unico, con tutte le commissioni che formavano il percorso di SBN. E quando discutevano, anche di questo io sono testimone, quando discutevano anche animatamente, ma discutevano nel merito, cioè si discuteva delle scelte da fare, degli obiettivi da raggiungere, dei mezzi da utilizzare, non erano discussioni astratte, ma erano discussione nel merito, tant'è vero che diciamo l'SBN allora è riuscito a conquistare, certamente grazie alla grande personalità della Vinay, questo è chiaro, è sempre la fortuna, diciamo, delle persone, nel senso che non so se cioè il contesto è importante, ma sono importanti anche le persone, e quindi per dire come poi anche gli alti ranghi del Ministero in qualche modo hanno dovuto fare i conti con SBN e poi appoggiarlo, pur non comprendendone fino in fondo in qualche modo le potenzialità. E allo stesso tempo posso dire che se l'ALA, mi sono chiesta, proprio perché non volevo fare una marcorda, ma mi sono chiesta, ma l'ALA adesso che cosa farebbe, che cosa seguirebbe in un momento che certamente non è quello degli anni 70, abbiamo insomma emerso da tanti interventi, no? E non è quello che emerge anche per esempio da quel libro che ha curato Maria Gioia Tavoni, il libro Popolo e Territorio, che parte da una indagine fatta dalla Biblioteca di Faenza, dalla Manfrediana di Faenza, e che coinvolgeva le cattedre di sociologia di Bologna. Era una roba veramente importante. Cioè, quei bibliotecari, per mettere mano all'elaborazione di una strategia e degli obiettivi conseguenti, non è che facessero un discorso esclusivamente biblioteconomico, hanno coinvolto degli metodi di indagine più larghi, diversi. Ecco. Quindi gli anni 70 sicuramente sono stati degli anni di grande impegno, e probabilmente noi baby boomer continuiamo a persistere, infatti i giovani spesso ci dicono ma vi levate di torno, sostanzialmente, magari con più grazia, però questa cosa. Ma noi abbiamo passato la vita a partecipare, e quindi è chiaro che continuiamo a farlo. Noi siamo sempre lì perché noi siamo stati sempre lì. Ecco. Quindi anche adesso forse quello che possiamo trasmettere è anche quello che sicuramente l'ALA troverebbe interessante. Ecco. Veramente interessante, perché l'ALA, poi io non voglio beatificare, ma l'ALA era anche snob, cioè l'ALA era molto esigente, molto demanding, quindi diciamo che era molto interessata poi alle sfide, al cambiamento, a capire la natura del cambiamento. E quindi diciamo che le biblioteche hanno raggiunto molto, non vedetevi, io dico vedetevi perché io, pur rimanendo nell'anima bibliotecaria, che è quello mestiere che dà un imprinting, quindi in qualche modo poi si rimane, non è indifferente. Però poi ho seguito il filo dei contenuti, e quindi mi sono sempre occupata di contenuti e di organizzazione e diffusione di contenuti con altri mezzi. Però io vedo che le biblioteche hanno raggiunto una comprensione, una percezione da parte dell'opinione pubblica che non è quella che io ho conosciuto negli anni 70. Noi abbiamo conquistato e c'è. Guardate le biblioteche di Roma, che pure in grandissima crisi, però quando cerca la mobilitazione dei cittadini a Roma in qualche modo la ottiene. Poi lasciamo stare che l'interlocutore politico ne tenga conto o meno, questo è un altro discorso, però, c'è una comprensione da parte dell'opinione pubblica e anche della stampa rispetto a quello che sono le strutture culturali, solo che forse oggi queste strutture vanno rilette, reinterpretate alla luce di un mondo che sta cambiando proprio lì, nella faglia di San Antonio in California, nel senso che è cambiato profondamente dove si trasmettono i contenuti, dove si organizza il sapere. E quindi è chiaro che ci sia, è giusto anzi, che ci sia questa consapevolezza di un grandissimo cambiamento che non sappiamo ancora come andrà a finire. Però potrebbe essere anche rilanciare la professione, un rilancio, un entusiasmo, un nuovo entusiasmo della professione, che sia quella di abbracciare, allargare i propri valori, diventare più parte del tessuto culturale che sta cambiando, cioè essere meno preoccupati del proprio futuro, che pure è una preoccupazione assolutamente legittima, ma più partecipi di questo cambiamento, di questo sguardo connettivo che deve mettere insieme più luoghi, più occasioni, più strumenti, e tutti questi diversi soggetti in qualche modo devono costruire nuovi sistemi. Quindi dai sistemi che sono stati costruiti, sempre con molte difficoltà in Italia, perché già solo il pensiero del sistema sai che crea un po' di allergia, però dai sistemi che sono stati costruiti a nuovi sistemi, perché i sistemi si imparano facendoli. Ecco, questo credo che sia l'eredità di Lalla, è quello che io ho imparato da lei e da tutto quel gruppo che ha fatto l'impresa, come diceva il film. Grazie. Grazie a Madal. E adesso inviterei Rosa Maiello a chiudere con una parola questo incontro, diciamo, si è parlato di tante cose e io credo che poi all'associazione professionale, come è stato in quegli anni con Angela Vinay, tocca anche il compito di cercare di condurre a sintesi e utilizzare tutti questi spunti per far progredire le biblioteche. Non vi chiedo adesso di farlo, però di chiudere da presidente dell'AIB questo incontro. Allora, non farmi tremare i polsi per due motivi. Il primo è che mi sono persa tutta la prima parte dell'intervento, quindi non ho proprio nessuna pretesa e ambizione di concludere davvero, soltanto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e incastrarli, perché circolavano, Francesca ci ha avvertiti, circolano nella pagina Facebook dell'AIB dei commenti, ma ci saranno gli atti, e allora preghiamo tutti voi che siete intervenuti oggi di regalarci gli atti che pubblicheremo, che ci impegniamo a pubblicare. Devo dire, tremano i polsi anche perché, appunto, da un lato è motivo di orgoglio per noi che ci sentiamo, troviamo nell'AIB la nostra casa, no? Che siamo orgogliosi del lavoro che facciamo e vediamo nell'AIB il momento più alto e libero per esprimere questo orgoglio e condividere le nostre riflessioni. è motivo di vanto chiaramente sapere di avere avuto alla presidenza dell'associazione personalità del calibro di Angela Vinay, ma non sono da meno altri ex presidenti che sono nazionali, che sono anch'essi al loro tavolo, vicepresidenti che sono stati prima al nostro tavolo. Ecco, l'AIBA ha sempre avuto questa capacità attrattiva e credo che, e saluto anche tutti voi che siete in sala, mi sarebbe piaciuto vedere più giovani, su questo dobbiamo però riflettere, perché mentre ad esempio al convegno SBN di Venezia, tra l'altro porto i saluti anche di Giorgio Busetto che quando era alla Querini Stampalia tutti gli anni organizzava i seminari Vinay e che ha mandato un messaggio anche lui per dire che non gli sarebbe stato possibile essere presente ma che partecipava idealmente a questa giornata in ricordo. Il punto su cui dobbiamo interrogarci è che in parte era anche nelle riflessioni tra le righe di Madel, dice noi siamo sempre qui perché ci siamo sempre stati, perché non avremmo potuto affrontare il nostro lavoro, la nostra professione, la nostra passione per le biblioteche se non cooperando. La grande idea di SBN nasce da lì ed è un lavoro che deve continuare nella nostra visione, deve diventare un sistema, dei sistemi, il più accogliente, il più aperto possibile, ma che è un motivo di forza per tutti i servizi bibliotecari italiani, nel senso che appunto anche questo lo ha detto spesso l'AIB e lo diceva anche, lo dicevano le tesi di Viareggio, una biblioteca che opera da sola non è nulla, anche se fosse una grande biblioteca, eccetera. Le biblioteche devono vivere nella relazione con gli utenti, certamente, con tutti i pubblici, ma anche tra di loro. E l'idea di fondo era questa, lavorare insieme per migliorare i servizi agli utenti. Noi cerchiamo come possiamo di portare avanti questa tradizione. Quando ascoltavo Tommaso, ad esempio, raccontare l'approccio che Angela Vinay aveva con i giovani e con i suoi pari, diciamo così, percepivo la stessa cosa che raccontava anche Claudio Leombroni, ad esempio, nel suo ricordo di Lalla Soggiu. E cioè appunto grande sostegno ai giovani, alle nuove generazioni e severità con se stessi e con gli altri animati da etica. Ed è quello che appunto noi dobbiamo cercare di praticare e di praticare anche nel nostro approccio alla vita dell'associazione, al modo di entrarci, l'etica. Tutto il resto, certamente noi dobbiamo cercare di dare servizi ai soci per la formazione, eccetera, per il confronto, ma soprattutto cercare di trasmettere la passione di fare questo lavoro. Ci sono pochi giovani perché naturalmente i bibliotecari si stanno estinguendo, anzi non è un processo naturale, ma è un processo indotto che abbiamo cercato di analizzare e continueremo ad analizzare e soprattutto al quale dobbiamo come associazione e come appassionati bibliotecari e appassionati intellettuali, lasciatemi passare questa parola, delle biblioteche e dei servizi che i bibliotecari possono dare a tutti da 0 a 150 anni, è chiaro che dobbiamo trovare le modalità, le strategie per reagire. Riguardo all'Alla, lasciatemi un ultimo minuto per due ricordi personali banali, stupidi, ma l'Alla è una delle persone che, appunto, come diceva una volta Alberto, ricordandola, che si incontrano, capita di incontrare solo nell'AIB. A me è capitato tramite Anna Maria Mandillo, che frequentavo perché ci occupavamo di fare pressioni sulle riforme del diritto d'autore, eccetera. Anna Maria è stata un'importante dirigente del Ministero che si è occupata di deposito legale, diritto d'autore e ha fatto poi tante cose. Loro erano molto amiche e quindi sono diventata automaticamente amica di Lalla essendo amica di Anna Maria. E due cose mi hanno colpito. L'avevo appena conosciuta, si può dire, forse l'avevo incontrata una volta prima, a un convegno, ero infreddolita, Lalla, ti vado a prendere a casa uno scialle, te lo do. Torna, va a casa, era un convegno, e va a casa, torna, mi dà questo scialle e dice no, no, così, insomma, perché devi soffrire, devi stare al freddo. La seconda volta le vedo tutte e tre, Anna Maria, Lalla e Giovannella, camminare felici e chiacchierare per fatti loro, sembravano due normali, tre normali signore, non si sapeva che insomma sono tre vulcani in piena attività e giovani intellettualmente come davvero non lo sono la maggioranza dei ragazzi oggi e che possono trasmettere entusiasmo così alle generazioni. Io dico, ah ma che belle signore, loro si girano, Lalla tutta orgogliosa dice, noi siamo tre, volendo dire siamo un blocco compatto, perché ci intendiamo. Ecco, l'AIB è anche il luogo dove nascono questo tipo di relazioni che sono fonte di ispirazione. Allora, al di là delle personalità eccezionali che pure ci popolano e ci hanno popolato e noi speriamo che continuino a popolarci, credo che abbiamo ancora un cammino lungo da fare per persuadere le istituzioni, appunto queste sconosciute, a investire sui servizi bibliotecari. I nostri colleghi e i giovani che vogliamo che diventino nostri colleghi, quindi gli altri, quelli che devono appassionarsi al nostro lavoro, che vale la pena di giocarsela, vale la pena di mettersi in gioco, vale la pena di affrontare una carriera che oggi è impervia, è molto più impervia che in passato, perché è anche questo un modo per far progredire la società. In fondo dipende anche dalla collettività tutta la qualità delle proprie biblioteche, quindi non parliamo solo verso l'alto, dobbiamo persuadere anche i nostri concittadini, tra i quali quelli giovani che devono, come dire, appassionarsi al loro lavoro. Grazie. Siamo tutti parte di una grande storia, no? Poi ognuno fa quello che può e dà quello che può. Bene, allora noi abbiamo finito puntuali, chi l'avrebbe mai detto? E, ricordo che Rosa mi ha raccomandato la puntualità nella ripresa pomeridiana alle 14:20, tutti qui.